della vicenda Saviano, beh sì, deve chiarire se è vero che ha firmato questo appello, se invece è un errore del web come più volte, cioè che il suo nome è finito per caso in questo tritacarne di appelli, perché poi l'appello è di per sé pruriginoso, noioso, perché l'appello non costa nulla, no? Tutti gli intellettuali che fanno la corsa a mettere l'appello, la loro firma sulle questioni più disparate, e premesso che l'appello è noioso e ne dà ambulanza, sia chi li propone sia chi li firma, tutti gli appelli in generale, sì, sì, perché non costano nulla e ti salvano e ti puliscono. Però, la coscienza. Dire, lascia perdere gli appelli, ho fatto bene o no a porre la questione di Saviano, sì, cioè della legittima spiegazione pubblica di Saviano? Legittima, più che mai legittima, hai fatto benissimo. No, perché qualcuno mi accusa, te la prendi con Saviano quando Saviano non c'entra niente. Ma, no, siccome è un personaggio pubblico, siccome ha fatto lui della sua battaglia politica, della denuncia alla camorra e quant'altro, una bandiera, è giusto che si sappia la sua posizione sulla vicenda Battisti. Detto questo, domani ci sarà una manifestazione a Roma, come sapete, sotto l'ambasciata brasiliana, e anche a Milano un sit-in. Io, anche questo lo sapete, non sono granché entusiasta in generale delle manifestazioni, non è che mi piacciono molto, credo che non sposteranno nulla, anzi sicuramente non sposteranno nulla, e mi chiedono di partecipare, ma meno male che alle 18, altrimenti sarei stato in imbarazzo, insomma, per la mia idiosincrasia alle manifestazioni in generale, ma non sarei andato. Penso che non servano a nulla, come non servono i boicottaggi, eccetera eccetera. Boicottaggi non servono a nulla, ma le manifestazioni fanno sentire che c'è un pezzo di paese che o 100 persone, 200, 400 che non la pensano come il governatore, l'ex governatore Lula. Vabbè, ma insomma, non c'è bisogno delle manifestazioni, insomma, se basta. Però gli qualsiasi... fai sentire sotto un po' di pressione, sotto l'ambasciatore. Sicuramente l'ambasciatore brasiliano in Italia, una telefonata lì in Brasile lo farà, dice: oh, qui c'è qualcuno che protesta qua sotto. Loro diranno: chi se ne frega, però intanto si fa vedere che in Italia non la pensiamo tutti come l'ex Lula. Allora, voglio capire, siccome è una manifestazione organizzata sostanzialmente da Alberto Torreggiani insieme a Daniela Santanchè, perché Torreggiani fa parte del movimento della Santanchè, ma questo non c'entra nulla naturalmente con la vicenda Battisti, e però c'è un appello bipartisan fatto dallo stesso Torreggiani, cioè che partecipino tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Voglio capire se anche il partito della Rifondazione Comunista, che ha un segretario che si chiama Paolo Ferrero, che fa parte della Federazione della Sinistra adesso e che saluto, buonasera. Andrà a questa manifestazione, ma ho i miei dubbi. No, non ci andrò. E considero il modo in cui il governo italiano ha affrontato questa vicenda una cosa incredibile. Perché incredibile, mi scusi? Perché prima, nei giorni precedenti, ha trattato il governo brasiliano come se fosse un cameriere, dicendo: vedete un po' di darvi da fare e avanti. E poi, quando il governo brasiliano, il legittimo presidente del Brasile, ha scelto di non concedere l'estradizione, si è messo con reazioni del tutto scomposte che francamente credo che non produrranno nessun effetto, salvo l'ulteriore discredito dell'Italia. Però mi scusi Ferrero, una delle accuse al contrario che vengono fatte all'Italia è quella di essersi mossa troppo poco, per cui dobbiamo metterci d'accordo: o si è mossa troppo poco, oppure come dice lei si è mossa in maniera scomposta, perché a me non pare che, anzi, la diplomazia italiana e i ministri italiani, a parte alcuni momenti assolutamente comprensibili secondo me, non mi pare che abbiano usato parole particolarmente dure. C'era una sorta di linea dettata da Berlusconi, forse, o da ministro degli esteri, che era quella di parlare poco, fare i ricorsi dal punto di vista giuridico, non suggerire al Brasile, o comunque non dare sponda all'estremismo di alcuni ministri brasiliani. Insomma, la parola d'ordine era questa, non era quella di trattare il Brasile come un cameriere, come dice lei. Ma francamente mi pare che l'unico estremismo sia di alcuni ministri italiani, che per l'appunto trasformano una questione di discussione tra stati in manifestazione di piazza, cosa che non si vedeva da quando Mussolini gridava al complotto inglese contro l'Italia. La manifestazione di domani è una manifestazione parafascista, secondo lei? No, sto parlando dei ministri, non sto parlando perché i ministri, diciamo, che rispetto ad altri stati facciano questo, stati che pongono un problema in cui forse bisognerebbe discuterne. Che problema pongo? O il Brasile è governato da dei pazzi, o Lula è matto, oppure Lula dice una cosa molto semplice, mi sembra di capire, cioè? E cioè che le modalità con cui c'è stata le condanne, le svariate condanne di Battisti, non rispondono per quanto riguarda i criteri del Brasile ai suoi standard, e quindi pone un problema che l'Italia forse dovrebbe discutere, perché noi abbiamo un Presidente del Consiglio che per quanto riguarda i processi suoi si fa le leggi ad personam, che quando c'è da condannare qualcuno per mafia grida in ogni caso, e invece per vicende che sono vicende del passato, vorrei sottolinearlo, non siamo in Italia. Sì, però Ferrero, non possiamo parlare delle leggi ad personam di Berlusconi o di Berlusconi e della mafia in rapporto ad un caso che mi sembra, insomma, lei, la cosa che voglio capire da lei, quando si fanno questo tipo di ragionamenti è perché lei non crede alla colpevolezza di Battisti, lo dica chiaramente. No, io su questo non mi sono mai pronunciato. Perché? Perché non ritengo, ma perché io non faccio il magistrato. Cioè, lei crede in quelle sentenze della magistratura che hanno condannato Battisti a due ergastoli oppure no? Questo è un punto di rimente. Ci crede a quelle sentenze della magistratura? Quelle sentenze sono sentenze, non è un fatto di fede una sentenza. Però io segnalo che il governo brasiliano dice, guardate che le modalità legislative con cui si è arrivati a quelle sentenze, uso dei pentiti e tutto il resto, sono modalità che non rispettano degli standard democratici, che un paese come il Brasile, però mi faccia fare il ragionamento, sì, ho capito. Che mi chiede, che un paese come il Brasile, che è uscito dal fascismo e fa della questione della democrazia un punto decisivo, ritiene necessari. Segnalo che noi abbiamo delle sentenze in questi ultimi anni, qualcuna di qualche mese fa, che fanno sì che stragi come la strage di Piazza Fontana o la strage di Brescia, questo è l'ultimo caso, vedano nessun colpevole. Se lei pensa... di fronte a questo, no, il punto che pongo è politico, è che quando un governo decide di costruire una campagna stampa di questo tipo, quando riguardano le stragi che hanno visto impegnati servizi segreti deviati, corpi dello Stato, gruppi fascisti e quant'altro, nessuno ha mosso un dito. Ma non è vero. Come non è vero? Lei ha visto il ministro della giustizia adirarsi. Ma quelle sono sentenze della magistratura. Lei quando la magistratura arriva su piazza ultimamente su Brescia, non mi ricordo che cosa. La cosa che questo governo è stato caratterizzato è di polemizzare con la magistratura. Sì, d'accordo, però la cosa che dico è che c'è una scelta politica del governo di fare ma questo. Ma può darsi che sia così, io voglio capire, io voglio capire una cosa da lei, Ferrero. Lei della decisione del Brasile è contento, sì o no? Io rispetto la decisione del Brasile, ma rispettare, io mi sono sempre fermato prima, non sono mai entrato nel merito, c'ho persone che me lo chiedono da una parte e dall'altra, io mi sono sempre fermato prima dicendo, primo, il governo italiano dovrebbe rispettare il governo brasiliano. Ma noi che vogliamo muovere guerra al Brasile, ma adesso siamo arrivati a dire che si disdicono dei contratti commerciali, ma nessuno lo dice, per il mondo credo stiano ridendo. Nessun governo, nessun esponente del governo l'ha detto fino in fondo una cosa di questo ho tipo. Ho capito, però sono le cose che servono per i giornali, appunto, perché nessuno pensa di farlo, perché se uno disdettasse un accordo di quel tipo, il minuto dopo c'è qualche paese europeo che fornisce le stesse cose, d'accordo, per cui stiamo alla pura propaganda, questo sto segnalando. Però scusi Ferrero, però una parte del suo partito tempo fa, alcuni esponenti del partito cui apparteneva, poi ci fu una scissione eccetera eccetera, firmarono quell'appello di Battisti. Lei oggi firmerebbe un appello per la liberazione di Battisti? Non ce n'è bisogno, perché probabilmente... Beh, appunto, siamo in una condizione in cui questo il problema non sussiste. E quindi, ripeto, io sto al punto che dico, perché altrimenti la discussione è un altro tipo. Invece io sto sottolineando un elemento, e lo dice uno che non ha mai avuto nessuna possibilità di essere attaccato per ambiguità sul terrorismo che considero una barbarie. Penso che c'è un elemento puramente strumentale da parte del governo di gonfiare questo caso all'inverosimile. Perché? Perché, ripeto, stiamo parlando di una vicenda del passato. Ma che significa una vicenda del passato? Non è che tutte le vicende del passato vanno sepolte? Bisognerebbe forse che l'Italia facesse una riflessione su quella vicenda per riuscire a chiuderla politicamente, invece che continuare ad alimentarla. Ma non c'è niente da chiudere sugli anni di piombo, Ferrero, non c'è niente da chiudere. Non c'è niente da chiudere, ci sono poche persone che hanno delle condanne da semplicemente da essere seguite. Guardi, punto e basta. Ci sono esponenti, ci sono esponenti come Roberto Fiore, che è stato condannato per banda armata e associazione sovversiva, che non ha fatto un giorno di galera. Appunto, per cui Battisti, che timori ha? Che timori può avere? Che timori può avere Battisti? Dall'altra parte era ad accoglierlo all'aeroporto. D'accordo, ma Ferrero, ma che timori può avere? Che timori può avere Battisti allora da questo punto di vista? Mi scusi. Che timori può avere Battisti se torna in Italia? Dato che i terroristi, gli ex terroristi in Italia sono stati trattati con i guanti di velluto, come lei sa bene. Che timori può avere Battisti per tornare in Italia? Mi scusi, sto dicendo che si sta facendo di una cosa molto limitata, un problema di Stato. Ma non è limitata, ci sono quattro morti, ci sono quattro morti. È la mia opinione. Quattro morti. Non è una roba su cui l'Italia cambia o non cambia. Ho capito, Ferrero, però lei se ne frega di quattro morti. L'Italia è stato sconfitto. Quattro morti ci sono, quattro morti in questa vicenda, quattro. Cioè, lei dice una cosa limitata, quattro morti. Di che stiamo... Le sto dicendo che... purtroppo quelle persone sono morte. Ho capito. Sono morte e nessuno le riporterà purtroppo in vita, perché questo che è stato è stato. Le sto dicendo che sul piano politico io sto parlando della scelta del governo, non discuto i familiari. Il governo vuole fare stradare una persona con... dovrebbe accettare quello che dice il Brasile, dovrebbe accettare questa singolare posizione del Brasile che dice che il nostro sistema giudiziario cosa, che non funziona. Le garanzie democratiche dell'Italia sono al di sotto degli standard che il Brasile considera necessari. Forse bisognerebbe interrogarsi. No, ma uno si può anche interrogare, però insomma io mi interrogo sul perché Battisti preferisce stare nelle carceri brasiliane piuttosto che nelle carceri italiane, perché anche qui voglio dire. Ma no, quello non preferisce stare né in quelle brasiliane né in quelle italiane. Ma abbiamo il traffico e torniamo subito. 800 24 00 24. Eccoci tornati alla Zanzara del 3 gennaio 18:47, 800 24 00 24. David Parenzo, dove sei? A Siena? Parenzo? Sono il Gran Ducato di Toscana, certo. Gran Ducato di Toscana. E abbiamo invece Paolo. Posto civile. Abolì per primo la pena di morte il Gran Ducato di Toscana, questo voglio ricordarlo. Ricordo. Ferrero, Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Però insomma, io voglio capire da lei, questa sentenza la rende felice? Non gliene frega niente, cioè, sentenza, questa decisione di Lula? No, io ne ripetisco, ne prendo atto. Il problema di un commento politico non è quello. Se lei dice dobbiamo rispettare, il Brasile. È chiaro, la cosa che io sto sostenendo è più pesante di quella che lei mi dice. Io sto dicendo questo, che il governo fa volontariamente una campagna di stampa producendo un'attenzione dell'opinione pubblica su questo caso. Fino adesso a mio parere, non l'ha fatta fino adesso la campagna di stampa. A mio parere sì, ma dove l'ha fatta? Tant'è che stiamo a discutere di questo e ad esempio non si discute in Italia che la Fiat sta demolendo la Costituzione. Ma come non si discute? Si discute dei lavoratori. Ma si discute ogni giorno, Ferrero, della questione della Fiat. E infatti di quella roba lì il governo non prende posizione. Pare che quello avvenga in Brasile. Ma questo non è così. Lei ha sentito qualcuno del governo prendere posizione rispetto alle cose che dice Sacconi che chiude gli stabilimenti? Che è una roba. Ho capito, il governo ha la sua posizione che è più o meno vicina a quella di Marco. Ho capito, ma è legittimo essere da parte di Marchionne? Di non discuterne. Io sto vedendo che questo ha un caso molto alto e che il modo sgangherato in cui il governo l'ha presa fa sì che a livello internazionale non produrrà nessun effetto. L'unico effetto lo produce a livello interno, che è l'unico obiettivo del governo italiano. Ma la stupisce che Saviano, per esempio, abbia firmato quell'appello? Com'è? È vero che l'ha firmato? No, l'ha firmato. La stupisce che Saviano abbia firmato quell'appello? Quello del 2004? Non lo so, non sono in grado di dirlo, non sono un fan particolare di Saviano. Ho visto che ne firma molti, insomma, mi sembra uno molto presente su quello non c'è dubbio. Diciamo così, io mi aspetterei che Frattini dicesse qualcosa sui diritti, che ne so, adesso per non usare sempre la Libia, ma questo è un po' di benaltrismo, diciamo la Bielorussia, dove invece abbiamo, cioè il governo il nostro ha rapporti con governi più o meno dittatoriali ed antidemocratici di mezzo mondo, bene, e molti si mette a fresca campagna sul Brasile. Dovrebbe fare questo, dovrebbe fare quest'altro, ma non c'è dubbio su questo. Però nel merito, perché se lei pensa che dobbiamo rispettare la decisione del Brasile, perché allora non dice la stessa cosa delle decisioni, che ne so, del Nicaragua su Casimirri, che è un altro ex brigatista, oppure dobbiamo rispettare anche il Giappone su Zorzi, che gli ha dato la cittadinanza? Dica lo stesso su Zorzi allora. Ma infatti lei ha mai visto in Italia Italia una campagna come questa su Battisti, su Zorzi? A parte che c'è stata da parte già di sinistra in processi, mica da ridere. No, ma perché lei dice dobbiamo perché lei dice rispettiamo anche la sovranità del Giappone che ha concesso la cittadinanza? Guardi che è successo. Infatti Zorzi ad oggi, neofascista Zorzi, implicato appunto in processi molto pesanti, sì, sulle stragi italiane, cittadino giapponese appunto, cioè c'è un problema in più, non è la stessa situazione di Battisti, c'è un altro problema. Su Silvia Baraldini invece è avvenuto esattamente il contrario, se ben ti ricordi, no? Sì, certo. Cioè, su Silvia Baraldini, un'azione col governo nelle prigioni americane, mi pare di poter dire diplomaticamente un po' meno sgangherata, e si fece un atto positivo, che considero assolutamente positivo. Comunque, Ferrero, il punto è molto semplice, non capisco perché c'è questa vicinanza, perché di questo si tratta. Lei adesso vuole mantenere una posizione che non è quella di vicinanza nei confronti di Battisti. E adesso me la costruisce lei, no, ma la costruisce, però lei, dispiace, lei, no? dovrebbe dire vai stradato o non vai stradato. Non è che uno può restare lì nel limbo e dire no, io non mi interessa questo aspetto qua, mi interessa un altro tipo di ragionamento. Io le sto dicendo questo, che il fatto che il Brasile non estradi Battisti viene motivato col fatto che le leggi sulla base delle quali Battisti è stato condannato, che è la legislazione di emergenza di quegli anni, non è ritenuta rispettosa degli standard. Parte che non è solo per questo. Parte che non è solo per questo è il punto. Questo è cosa? Beh, insomma, non so, io mettono in discussione anche la tenuta oggi della situazione carceraria italiana. E anche il clima, non solo Brasile, intorno al caso Amnesty, anche alcuni altri. Un sistema dove un po' di gente si suicida, diciamo, non è una cosa, non si può. Ma in ogni caso, il Brasile pone questo problema. Io in Italia dico bisogna riflettere su questo, e penso che il problema della chiusura degli anni di piombo di quella legislazione sia un punto vero. Guardi, il problema è che tutte queste discussioni secondo me sono fuffa allo stato puro, perché in realtà la questione è politica, cioè Lula ha voluto accontentare la parte sinistra del suo partito, ha voluto accontentare un certo milieu intellettuale che dalla Francia si è trasferito anche in Brasile, ha voluto accontentare in parte anche la Francia, perché non possiamo dimenticare le posizioni di Carla Bruni, con le questioni giuridiche che riguardano l'ordinamento italiano, la decisione di Lula non ha niente a che vedere, poi uno se la può raccontare come vuole, pensare che Lula abbia fatto dei ragionamenti sulla situazione carceraria in Italia o sulla democrazia in Italia negli anni 70. Lula è una persona molto pragmatica, non è un idealista come uno può pensare, è una persona molto pragmatica che decide in base agli interessi del Brasile. In questo momento l'interesse del Brasile, secondo Lula, è quello di tenere Battisti là. Cioè, questa è la situazione. Lei non crede? Io penso che questa è la sua lettura. Io ne do un'altra. Ad esempio, non mi permetterei mai di dire che Lula è un pragmatico non idealista. È stato considerato un mattacchione anche a sinistra, perché le ricordo che Lula era il presidente del PT, operaio che ha fatto lotte, ha fatto il sindacalista, è arrivato a fare il presidente del Brasile sulla base di uno scontro sociale e politico molto forte, e ha cambiato il volto di quel paese. Quindi per me Lula è un idealista positivo, cioè un idealista non con una testa tra le nuvole, ma che si batte per i suoi principi e ottiene dei risultati. Dunque questo, viva il Brasile, viva il Brasile per questa decisione. Lula sia parte di un ragionamento più generale in cui prova a cambiare un po' questo mondo. Però diciamola così, a fronte dei reati contestati e per cui è stato condannato Battisti, merita di essere considerato un rifugiato politico? Questo è l'altra non può meritarlo un uomo che è stato condannato dalla giustizia italiana in più gradi di giudizio con 4 omicidi dimostrati. Ferrero è un rifugiato politico, lei lo considera un rifugiato politico? Non può essere considerato un rifugiato politico. Non credo. No. Magari per Ferrero sì. Io le sto dicendo, no, io non ho detto questo, io le sto dicendo che il Brasile considera le leggi sulla base della quale Battisti è stato condannato e le procedure tali da non essere rispettose delle regole democratiche. Questo è il punto. Ma ho capito, ma uno non può sollevato nel corso degli anni da centinaia e centinaia che non conoscono la storia italiana, Ferrero, che non conoscono evidentemente la storia italiana. No. Sia in Italia, anche nel resto d'Europa, ci sono dei problemi seri su questo. Adesso non è che si può, diciamo così, tutte le volte, poi mi sembra surreale, Berlusconi attacca la magistratura ogni 3x2. Ma perché adesso se la prende con Berlusconi e attacca la magistratura? Stiamo parlando di un altro argomento. In una situazione surreale in cui su un terreno vige il massimo di garantismo e su un altro terreno il garantismo non Ma ci sono quattro omicidi qua, Ferrero, è un altro discorso. Il garantismo esiste sempre, perché per l'appunto bisogna sapere chi l'ha ammazzata la gente, non mettere dentro qualcuno. E dunque lei pensa che non le abbia ammazzate? Lei pensa che quelle persone non le abbia ammazzate? Non condannare chi ha commesso gli omicidi, non sono per non condannare. Dunque lei non pensa che Battista abbia ammazzato quelle persone? Ha dei dubbi? Io registro il fatto che il modo in cui sono stati fatti quei processi è un modo in cui penso solo al peso che hanno le testimonianze. Ma dei tempi. Guardi che il garantismo vale per Battisti e non per Berlusconi, adesso vi tocca difendere Berlusconi. Cioè, perché il garantismo vale per Berlusconi e non per Berlusconi? No. Io sto dicendo che per me vale sempre e per tutti. Punto. Su Berlusconi non mi pare che quando un pentito parla c'è sempre il problema dei riscontri oggettivi, perché non si può altrimenti fare delle tesi campate per aria. Beh, insomma, sono stati, ci sono anche riscontri, prove, eccetera. Tolgo via il campate per aria. Non si può solo basarsi su tesi di persone che affermano delle cose avendo in cambio dell'affermare quelle cose degli sconti di prova. Questa è stata la legislazione italiana, ma poi c'erano delle prove, riscontri, le cose. Cioè, voglio dire. Io però mi sono. Diciamo, io penso che su questo l'Italia dovrebbe fare una riflessione per arrivare ad avere una legislazione che sia all'onor del mondo. Ecco, mentre fa la riflessione, quest'uomo può tornare in Italia mentre facciamo la riflessione? No, per Ferrero non deve tornare in Italia, si è capito? Può tornare qui a ascoltare la pena nelle nostre patrie? No, io non lo so, io vorrei solo che fosse chiara una cosa. Essendo io una persona che non ha particolare potere, come è del tutto evidente, tant'è che riesco ad andare alla radio a discutere solo quando dobbiamo discutere di Battisti, quando si discute di Fiat non vengo. No, abbiamo parlato anche di Fiat qui, però non si preoccupi. In ogni caso sono contento se mi inviterà. E la cosa che voglio dire, io non ho il potere di decidere una cosa o l'altra. Ah no, vabbè, certo. Ho detto che secondo me il modo in cui è stata costruita questa campagna, ripeto, piuttosto sgangherata. È strumentale, va bene, è tutto strumentale. Ma non c'è nessuna campagna per adesso, c'è una decisione del Brasile e una reazione dell'Italia, la campagna non si è vista. Devo ringraziarla, ci sono ascoltatori, ma soprattutto fra pochissimo il giornale radio. Marco da Prato, buonasera. Buonasera, dica. Dottor Cruciani. Veloce, buonasera, Marco. Velocissimo. Beh, dopo aver sentito Paolo Ferrero mi viene naturale dire, invece di mandargli un'ambulanza, mandategliela medicalizzata. Perché? Perché avrà bisogno anche del medico probabilmente. Addirittura. Perché mi sembra che abbia il cervello in acqua. Comunque, passiamo ad altro. Sulla base di quanto detto da anche le motivazioni specialmente che hanno portato alla non concessione della estradizione, mi sembra che sia un pugno allo stomaco non soltanto agli italiani e al buon senso degli italiani, ma alla magistratura italiana. E avrei qualcosa da chiedere al dottor Palamara, come mai non ha ancora pubblicato nove. Ma autorevoli magistrati si sono già espressi su questo, magari lo farà anche Palamara. Giornale Radio delle 19, torniamo subito dopo, 800 24 00 24. Eccoci qui, caro Parenzo, 19:15, 800 24 00 24, dopo questa spolverata di Ferrero sulle nostre menti. Comunque, sentiamo i titoli del TG3, poi vi riferisco di quanto dice Sergio D'Elia: nessuno tocchi Caino, ex parlamentare radicale, in un'intervista Riformista, credo di ieri o l'altro ieri, piuttosto significativa. La borsa dice sì alle due nuove Fiat. Al battesimo Marchionne ribadisce: se non c'è consenso, niente investimenti. Per la FIOM è un ricatto. Bossi denuncia: microspie nel mio ufficio e a casa. La procura apre un'inchiesta. Petardi contro la Lega, scarcerato, il giovane indiziato. La Lega insiste: o federalismo o voto. Il PD minacciano perché non hanno realizzato nulla. I dubbi dei comuni sulla distribuzione delle risorse. Folla commossa ai funerali del caporalmaggiore Matteo Miotto, ucciso in Afghanistan. A Herat, nuovo ordigno contro italiani, ma nessun ferito. Su Facebook il messaggio di Mariam, una delle 22 vittime della strage di Capodanno ad Alessandria d'Egitto. La Chiesa era nel mirino di Al-Qaeda. Bloccate le assunzioni dei dirigenti scolastici promesse dalla Gelmini. Entro il 2012 saranno 3.000 gli istituti senza presidi. E parte tra le proteste di turisti e albergatori la tassa di soggiorno per chi visita Roma. Più di 80 milioni di euro l'anno nelle casse della capitale. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. Questo è il Battisti buono, Parenzo. Sì, c'è anche un Battisti buono, Che finesse, che finesse. Non c'è solo il Battisti cattivo. Ci sono molte strade intitolate a Cesare Battisti, non Cesare Battisti, l'altro, quello che è in Brasile, l'eroe, diciamo. Il redentista, chiamiamolo così. Addirittura in una di queste strade a Lecco ho moderato un convegno su Battisti, penso un po'. I casi, con l'ex ministro della giustizia? Con Castelli, sì, con Castelli. La russa, non andrei mai più in Brasile, le esagerazioni, diciamo la verità, che può cosa può cambiare, non andrei mai più in Brasile. No, invece ci devi andare, magari a protestare o comunque a fare valere le tue ragioni. Senti, che ci va a fare poi in Brasile la russa, scusa? Che ne so, in vacanza? Con tutto quello che c'è da fare qui? Io sono vicinissimo a loro, a partire da Torreggiani che conosco, ma anche a tutti gli altri, e sono pronto ad appoggiare qualunque iniziativa loro decidano di intraprendere. Ho sentito parlare di una manifestazione di piazza, se la decidessero io vi parteciperei. Ho sentito parlare di appello a non visitare il Brasile, se prendessero questa decisione io non andrei mai più in Brasile. I brasiliani sono terrorizzati naturalmente all'idea che la russa non possa mai più andare in Brasile, ma ognuno sceglie anche una ragione, diciamo, ognuno sceglie anche i modi di protesta personali, diciamo la verità. Possiamo sorridere sopra questa cosa perché lo dice un ministro della difesa, ma insomma, ognuno sceglie il proprio modo per protestare. Facessero una cosa più concreta: quando il Parlamento dovrà affrontare il rinnovo dei contratti con il Brasile, decidessero, e lo possono fare, di non firmarli più. Cioè, che fare sarebbe una stupidaggine, l'abbiamo detto più volte, perché business is business and money is money, ma voglio dire, anziché fare roboanti proclami, sì, se davvero sono così indignati lo facessero. Con la Libia, ad esempio, noi con la Libia facciamo affari, eppure non esitiamo a rimandare indietro dei poveri clandestini e mandarli lì, sì, nelle prigioni libiche, che sicuramente allora? Non sono... Che c'entra? E allora, se vale per il compagno Mohammed Gheddafi, quell'uomo curioso che veste in quel allora? Modo eccentrico, facessero altrettanto valere la realpolitik degli ideali, però, dicendo basta col Brasile, davvero non vogliamo più avere nulla a che fare, non vogliamo i soldi del signor Lula. Però se hai letto in questi giorni tutte le cifre che del commercio, dell'interscambio tra Italia e Brasile, naturalmente non puoi che concludere che questa posizione sarebbe assolutamente impossibile da prendere, soprattutto per uno come Berlusconi. Ma sì, andiamo una cosa a sentire. Concreta è che il governo dovrà affrontare la questione della ratifica dell'accordo. Sì, vabbè, ma tu sono tutte cose che passeranno, non ci sarà nessun tipo di ritorsione. Allora, però, non faccio da questo punto di vista. Proclami, scusa. Dicano anche qui c'è la politica, ma lo dicessero, però dicessero: ci fa schifo quello che fa il Brasile, ma gli affari sono affari, l'hanno fatto con Gheddafi. Ma guarda, più o meno Frattini, Frattini lo ha detto con dicendo che vehemenza, cioè ognuno sceglie i toni che sceglie. Frattini ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che diciamo la verità, sostiene Frattini, è molto difficile con un partner commerciale come quello brasiliano che ci possano essere delle ritorsioni commerciali. Ma sentiamo il parere di Lucia Annunziata. C'è una componente che riguarda la responsabilità del governo italiano, in particolare il governo Berlusconi. Ha messo su questa storia di Battisti una carica da 90 ideologico fin dall'inizio, fin dal periodo francese, e dunque in qualche modo ha scatenato una reazione simbolica e muscolare da parte del governo. Ma io sono convinto, l'Annunziata per esempio sostiene che con un governo di centrosinistra Lula non ci avrebbe umiliato, sentiamo. Non ho dubbi che se ci fosse stato un governo centro-sinistra Lula non avrebbe mai umiliato come ha fatto l'Italia con una decisione del genere. Su questo ho molti dubbi, però naturalmente questa è un'opinione, ma stiamo ragionando sempre sui se, sui ma, se ci fosse stato un governo di centro-sinistra. Cioè, secondo me queste cose prescindono dal tipo di governo che c'è. Non c'è dubbio. In Italia. Sono singolari però le motivazioni di Lula, no? Che sono le stesse di Berlusconi. Cioè, e qui non ti incazzare subito per il paradosso, che non è un paradosso, perché quando Lula critica il sistema giudiziario italiano, usa gli stessi argomenti che usa il nostro Presidente del Consiglio. Uguali. Cioè, sì. Ma io voglio dire, speculare è divertente la questione, no? Sì, la mette in rilievo, per esempio, Vauro nel suo libro. Ah, questo non l'ho visto, però vedi che... No, perché se uno mette in parallelo alcune affermazioni di Lula sul sistema giudiziario italiano, comunque dei ministri brasiliani, alcuni ministri brasiliani, alcune affermazioni di Berlusconi, ma insomma tutto va inserito proprio nel proprio contesto. Perché c'è mia figlia che protesta per che Lula. Fa? Che fa? Sallusti versus Armeni, sempre su questa vicenda. Di che sei contenta, dice Sallusti. Per Lula, amore? No, assolutamente no. Sallusti perché? Versus Armeni. Ma perché non hai il coraggio di dire che sei contenta? Ma perché dovrei dirlo se non è vero, scusa? Ma perché rappresenti una parte politica, arrivi da una storia politica. Ma guarda un po'. Che era esattamente quella che ha difeso questa gente, ha legittimato questa gente. Ma perché devo dire delle cose che ha dato un ruolo politico a questa gente? Per farti un piacere, ma scusate, guarda un po'. Per un piacere, per essere coerente. Con Sallusti che cerca di far dire all'Armeni... di che sei contento, un po' come facevo io con Ferrero, perché in fondo per Ferrero è, secondo me è così, ma insomma non voglio fare un processo alle intenzioni, per l'Armeni non lo so, credo di no, non dico in tutti gli esponenti della sinistra, però in alcuni certamente sì. Sallusti versus Armeni 2. Rita Armeni arriva da una storia politica che è stata fiancheggiatrice di Battisti, la storia politica di Rita Armeni. Di Battisti. Scusi Sallusti, lei sta dicendo che io sarei stata fiancheggiatrice di Battisti? No, lo dica, no, perché io non ho un avvocato. Non fare dire cose che non ho detto, ho detto che la tua storia politica... No, potrei sempre assumere un avvocato, sa? La storia politica dalla quale arrivi... Ma no, perché ma non posso? No, neanche arrivi questo, dal manifesto. No, questo. Arrivi appunto, dal manifesto che gli esuli li ha sempre difesi. Lei me lo sa dire. Vogliamo dirlo o no? Ma lei ha letto un pochino il manifesto qualche volta, oltre che leggere. Sì, ma che cosa letto, c'entra il manifesto col terrorismo? L'ho letto. Ma mi scusi. Non ha mai ma difeso Sofri, non ha mai difeso gli esuli a Parigi, ma la smetta con mai. Questo metodo, la prego. No, lo so che la colpa è di Berlusconi. Cambi giornale, la colpa è di Berlusconi. Ma per carità. Va bene, 19:24, 800-24-0024, Sallusti fa riferimento però a che cosa? Naturalmente tranciando di netto alcune questioni, ma come è normale che si faccia in certi contesti, al fatto che certi giornali e certi partiti politici, in cui ha militato anche la signora Armeni, hanno preso delle posizioni inequivocabili sulla vicenda Battisti, per esempio, che sono delle posizioni qualche volta di vicinanza a Battisti. A questo fa riferimento Sallusti, poi che l'Armeni sia una fiancheggiatrice o comunque l'area di politica di riferimento sia fiancheggiatrice del terrorismo, questo significa generalizzare. Una panzana colossale. No, una panzana colossale no, però colossale, è una generalizzazione, colossale. non è una panzana. Da ambulanza no, semi attrezzata. Ma assolutamente non è così. Ma sì, ma come si fa a dire che siccome una parte della sinistra pone una questione politica rispetto agli anni di piombo, no, non è solo questo. Politicamente, non è solo questo. Non si può dire che sono dei fiancheggiatori. Come l'operazione di oggi del giornale diretto dal grandissimo Sallusti, che è un provocatore straordinario e anche un bravo giornalista, allora... riconosciuto. Ma oggi ha fatto una porcata. Posso dire che ha fatto una porcata? Ma su cosa? Non ho letto. Su cosa? Su Sergio D'Elia. Perché ha preso l'intervista che tu hai accennato prima, che Sergio D'Elia ha fatto al Riformista, sì, a Tommaso Labate, sulla questione sì. della situazione delle carceri, e ha detto: ecco il terrorista cosa ci insegna sulla situazione delle carceri. Però scusami un attimo, non ha fatto la situazione delle carceri. Allora ha detto: Sergio D'Elia, nessuno tocchi Caino, 12 anni di carcere per terrorismo con prima linea, eccetera, eccetera. Sì, cosa, dopodiché ha fatto un percorso lo conosco da un sacco di anni. Che cosa ha detto? Lo Stato italiano anche è un delitto. La Mambro fa parte di quella aspetta. Lo Stato, ma anche me ne frega della mamma. Lo Stato italiano è un delinquente abituale. Le nostre carceri sono strumenti di tortura. Ma non è così. Vero? Ma che cosa dici? Lo Stato italiano è un delinquente abituale? Ma che frasi sono? Ma è una cosa ridicola. Il delinquente abituale è un'iperbole che un politico. Ho capito. Si può il nostro paese, condannato decine di volte dalla giustizia europea, vero? Non ha titoli per chiedere al Brasile la cauzione di Battisti. Non è così. Finire vero? In galera in Italia. Un attimo, mi fai carcere, chiudere. Può intervenire ma non c'è. Ma no, ma non con riferimento alla vicenda Battisti. Finire in galera in Italia è come essere condannati a morte. È meglio Battisti liberi in Brasile che Battisti in una prigione italiana. I parenti delle vittime sono stati traditi non da Battisti ma dallo Stato italiano, questo che in 50 anni ha sottratto a questo paese le leggi, le garanzie, i diritti e che ha commesso delitti su delitti. Sono generalizzazioni è una assurde. Posizione radicale. Ho capito, radicale ma di chi si occupa di carcere da più di 20 anni. Ma come si fa? È stato oggi un suicidio. Ma come si fa? Come si fa a sostenere queste cose con riferimento alla vicenda Battisti? È legittimo battersi per il miglioramento delle condizioni carcerarie, ma questo non significa che Battisti morirebbe in carcere. Questa è una cosa ridicola. Ma non si può ridicola. Mettere un titolo le elezioni dichiarazioni dei due ex terroristi, come ha fatto il giornale, come se una persona come Sergio De Lira non potesse parlare di carcere, visto che è 20 anni che se ne occupa. Il fatto che sia stato un ex terrorista di prima linea e ha fatto un percorso vuol dire che non può più parlare di carcere. Non ho capito, ma che stronzata è? Ma non è strumentale il modo come è stata presa. Se avesse taciuto su Battisti sarebbe stato meglio, se fosse stato zitto su Battisti sarebbe stato meglio. Perché 20 anni si occupa di carcere da 20 anni. No, Battisti è un'altra questione che non ha niente a che fare con le carceri. La questione Battisti non ha niente a che fare con la situazione carceraria italiana. Ma spunto da quel caso. E appunto, è sbagliato situazione carceraria. Sbagliato doppiamente, perché se devi parlare di Battisti, parli di Battisti e non della situazione carceraria italiana. Che sono 176 suicidi. Ma non me ne frega niente. Ma non me ne frega niente. Battisti è un altro discorso che non ha niente a che fare con la situazione carceraria italiana. Niente. E allora cosa c'entra? Se parli di Battisti insieme alle carceri, sbagli, commetti un errore, punto. È una puttanata scrivere le lezioni di due ex terroristi. Ma quello che me ne frega di quello che scrive il giornale? E va bene, sarà pure usata. Stato strumentale. Sai quante posizioni strumentali ci sono sui giornali in Italia? E io dico che è strumentale questa posizione del giornale. Ma no, sta criticando alcune posizioni espresse da Sergio De Lira in un'intervista Riformista. E non mi pare. Che c'entra che è stato un ex terrorista? Cosa c'entra? Ma ho capito, ma... Come cosa c'entra? Che significa cosa c'entra? Ma che c'entra, scusa? Vabbè, non c'entra. Bollino a vita, ex terrorista a vita, un uomo che da 20 anni è nelle istituzioni e si occupa dei diritti dei detenuti, diventa un ex terrorista a vita. Allora, se avesse parlato delle carceri, nessuno avrebbe detto nulla. Siccome parla di Battisti dicendo che è meglio che resti in Brasile, giustamente viene bastonato dal giornale. Non mi pare una cosa. Io su Battisti do ragione. E allora di quello si sta parlando, di quello si parla, non del fatto che è stato strumentale. Vabbè, strumentale. Ma non ha parlato delle carceri, ha parlato di Battisti. Non ha parlato della situazione carceraria italiana, cosa che fa ogni giorno D'Elia e cosa che fa in maniera meritoria della situazione delle carceri italiane. Ha unito questa questione delle carceri, che esiste, certamente non è della rilevanza, non è della grandezza spiegata o propagandata dai radicali, con la vicenda di Battisti. Siamo condannati dalla Corte Europea. Vabbè, Francesco dalla provincia di Frosinone. Francesco dalla provincia di Frosinone. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. E niente, io facevo questo ragionamento, che dal 96 adesso la maggior parte di tutti gli ex terroristi rossi e neri hanno ottenuto la semilibertà o sono usciti dalle patrie galere, e non vedo perché la stessa cosa non potrebbe accadere per Battisti. Sì, Francesco, è vero, cioè se Battisti, ma questo l'ha detto anche uno dei suoi mentori, Arrigo Cavallina, cioè se Battisti fosse tornato in Italia anni fa, probabilmente adesso sarebbe libero. Ma abbiamo la borsa, torniamo subito, 800 24 00 24. Allora, eccoci qui, caro Parenzo, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Direi di sentire qualche ascoltatore. C'è la questione di Berlusconi versus Tremonti, almeno da quello che raccontano i giornali, a tenere banco, con Berlusconi molto timoroso del fatto che Tremonti, se ci dovesse essere elezioni, uno stallo poi al Senato, potrebbe essere lui a guidare un governo di transizione. Molto nervoso per il fatto che la Lega insieme a Tremonti forse puntano alle elezioni e dunque puntano ad uno stallo successivo, insomma una situazione molto confusa, e pare che Berlusconi sia molto nervoso nei confronti di Tremonti. Ci sarebbe stata una telefonata, poi una smentita di una telefonata molto dura di Berlusconi nei confronti di quello che D'Agospia ribattezza come Tremendino, no? Tu che dici? Ne ha ben donde il cavaliere di essere timoroso. Perché? Perché dopo quello che è successo il 14 dicembre, questa data, questa caporetto della maggioranza, salutata come dire il successo berlusconiano, in verità, come abbiamo detto più volte, come ho ricordato, io uso il plurale maiestatis lautelma, come abbiamo ricordato a noi Parenzo più volte, si rivela quello che sta avvenendo in questi giorni. C'è un governo ostaggio della Lega, in cui la Lega sostiene Berlusconi con una maschera di rabbia, perché dice o ci dai il federalismo oppure che senso ha che noi continuiamo a lavorare così. Lo tiene proprio stretto per il bavero della giacca in questo momento, ed è in una difficoltà assoluta, perché ha da una parte i suoi pidiellini un po', come dire, stanchi e logori da questa esperienza di governo, e dall'altra i leghisti, che sembrano essere gli alleati più fidati, ma che in verità sono pronti a farlo cadere allora quando non gli diano il governo. Vabbè, Berlusconi non, però a questo punto voglio capire dal protagonista assoluto di questa vicenda, che siamo riusciti come al solito a intercettare in una intervallo del suo lavoro, che come sai è un lavoro molto delicato, i conti in Italia, ma noi abbiamo un canale privilegiato. No, commercialista di Sondrio. Esatto. Giulio Tremonti, buonasera. Buonasera, Crociani. Oh, ministro. Parenzo, ho sentito parlare di caporetto della maggioranza. Beh, e già il fatto che il vostro notiziario dedichi spazio alla mucca, alla mini mucca alta un metro, la dice lunga. Io ho accettato questa sera il suo invito a Crociani, sì, per una ragione specifica. Mi tocca, mio malgrado, partecipare a questa tabella radiofonica facinorosa e globalizzante. Lo faccio dai, Crociani, per favore. No, era Parenzo, io stavo in che fa tutte le volte, ministro, no? Io stavo in favore, era Parenzo, io ero in silenzio, ero in rispettosissimo silenzio, sì, quasi in ginocchio. Partecipo per smentire categoricamente quanto riportato quest'oggi dalla Repubblica e dal giornale. Voi, la Zanzara, come sempre, a dare man forte a chi getta discredito sul governo. Voi volete l'emersione del sommerso, che non c'è. Ma scusi, in che senso l'emersione del sommerso? Guardi, Crociani, devo smentire, se ce ne fosse bisogno, ma sappiamo che le fonti sono di chiama matrice. No, però spieghiamo una, scusi, di matrice comunista. Mi lasci finire, per favore. Prego. Di quella sinistra radicale, arrogante, globalizzante, che ha portato al balzo. Scusi un attimo, Tremonti, però devo sottolineare una cosa. Oggi Repubblica riporta una sua frase. È un racconto che circola nel PDL ed è di questo tipo. Lei avrebbe pronunciato queste frasi: per abbattere il fascismo, avrebbe scherzato Tremonti davanti ad alcuni deputati, cioè, aspetti un attimo, c'è voluta una guerra mondiale, per sconfiggere il comunismo è servito un supermercato, per Berlusconi è bastata una minorenne marocchina, il che devo dire è una guardi, Crociani, io ho detto, e qua mi lasci parlare. Prego. Per abbattere il fascismo c'è voluta una guerra mondiale, allora, per sconfiggere il comunismo è servito un supermercato. Sì. Per Berlusconi non è vero che è bastata una minorenne marocchina. Non è vero che è bastata una minorenne marocchina, ce ne sono volute parecchie, quindi cerchiamo di non equivocare. Ma scusi, ma lei ha detto una cosa gravissima lo stesso, allora Tremonti, lei conferma di aver detto una roba del genere? Ma dai, sto scherzando. D'accordo. Un po' di umorismo in questo clima così becero. E devo smentire anche, visto che ne parla la telefonata anche con Berlusconi, c'è stato litigato per telefono. Esatto, devo smentire presunte telefonate o incontri burrascosi, attriti tra il sottoscritto e il Presidente del Consiglio, che non ci sono stati. Con Berlusconi ci siamo sentiti più volte al telefono in questi giorni per affrontare questioni concrete di lavoro, tra i nodi che il governo dovrà sciogliere, quelli attinenti al varo della riforma fiscale e all'introduzione del quoziente familiare. Questo lo sa, sono obiettivi programmatici già ribaditi in altre occasioni. Dai. No, ho capito. Teniamo conto della sua smentita ufficiale, perché è importante, fino adesso era una smentita ufficiosa. Dice dai, perché è un suo modo di parlare. Dai. Ho capito, Parenzo. Guardi, la meteorologia non fa il tempo, non decide quando splende il sole o quando piove, ma aiuta a navigare. I marinai sanno che non si governa il mare, ma la nave. Si manovrano le vele e non il vento. Questo è chiaro. Questo sì, è chiarissimo. Per carità. È chiaro. Chi vuole intendere, intenda. Crociani, per favore. La ringrazio, ministro. Buona serata. Buona serata a lei, cioè, ascoltatore. Grazie. 19:39, chiudiamo questo collegamento con il Ministero dell'Economia, avendo ricevuto la smentita ufficiale di tutto, ma d'altra parte era abbastanza scontato, direi, Parenzo, no? Di tutto quello che abbiamo sentito nei giorni scorsi. Va bene, Giulio da Lecco, buonasera, sempre 800 24 00 24. Volevo precisare che io sono anni luce che cerco di prendere la linea, mi piacerebbe parlare almeno un paio di minuti se possibile, no? Bah, a noi piacendo, insomma. Io sento offendere, io sono un 68, non voglio parlare di Battisti, non voglio parlare perché l'unica cosa giusta l'ha detta Ferrero su quelle cose lì. Andiamo bene. Le stragi di Brescia e di Piazza Fontana, chiudiamo qui il discorso. Ma cosa c'entrano con Battisti le stragi di Brescia e di Piazza Fontana? C'entra. Io sono tutto un 68 che ho vissuto da studente lavoratore proprio quegli anni. Auguri. E quando sono stati richiamati da voi nella circostanza della scuola, manifestazioni così, nel modo più assoluto non corrispondevano al vero, perché io ho fatto picchettaggio, ho fatto 8 anni lo studente lavoratore, perché studiavo la sera, mai ho rotto un vetro, pur manifestando democraticamente. Bene. I diritti si facevano valere. Bene. Io... E cosa ci vuole dire, Giulia? Io non ho capito niente. Lei ci vuole riferire che nel 68 lei faceva manifestazioni, ma non era violento. Va bene, registriamo quello che avete detto voi. Registriamo e portiamo quello a casa. Avete detto quando si parlava, non avendo preso la linea. Ho capito, Giulia, però sono passati dei giorni, adesso ci parli di cose nuove. Sì, non lo so, ma quello di Battisti non voglio parlare, l'ho già detto. E allora perché. Di che vuole parlare? Sono d'accordo con Ferrero. È d'accordo con Ferrero, benissimo. Stasera la ringrazio che mi ha fatto parlare, però ho assistito nelle sere precedenti, no? A una strategia, volevo dire, berlusconiana dell'attenzione, cioè direi. L'unico modo per occultare la verità e la giustizia è degenerare in rissa dialettica da bar, in modo che, come fanno la Santanchè, come fanno tanti altri, così come fa Gasparri, tutta quella gente lì che non lascia parlare, varie trasmissioni di ogni tipo. E cosa ho fatto io? Non ho lasciato parlare chi? Ho assistito a volte a non lasciar parlare, quasi a considerarlo un berlusconiano. Vabbè. D'accordo. Adesso Giulio. Invece stasera la ringrazio che mi ha lasciato parlare. Io spero di essere stato abbastanza chiaro nel mio. No, veramente no, però io sono abbastanza, come dire, ogni tanto mi faccio prendere da manie. Per avermi fatto parlare. Prego, ogni tanto mi faccio prendere da manie dittatoriali, poi ogni tanto rinsavisco e penso che ci sia la democrazia. Va bene. Claudio da Milano, buonasera. Buonasera, come sta? Tutto bene? Mi fa piacere sentirla. Apprezzo sempre la sua trasmissione. Volevo dire semplicemente queste cose, che mi sembra che in questo paese nessuno c'ha, mi scusi il termine, nessuno c'ha i coglioni, perché il signor Ferrero dovrebbe dire chiaramente che lui sta con Battisti, come lo dico io sono per una pacificazione nazionale, devono stare qui, non andare fuori il Mambro e Fioravanti, come giustamente deve stare fuori Battisti. Tanto più che il signor La Russa, mi permetta di dirlo, dottor Cruciani, il signor La Russa che si agita così tanto era quello che quando è stato ammazzato a Norum era in piazza, eccetera. Dire, sì, però Claudio, a me tutti questi, ma quello ha fatto, quell'altro, però negli anni 70 era così, era colà. Non facciamo così, io dico semplicemente che... Mitterrand aveva fatto quello che aveva fatto, o Mitterrand era un cretino o Mitterrand non era un cretino. Adesso non è stato, praticamente c'è stato un solo terrorista cosiddetto rosso a essere stradato dalla Francia. Voglio dire, non mi pare che sia, capisco perché adesso fanno tutto questo casino. No, guardi Claudio, il casino sono passati 30 anni, sono Claudio, stato no, io non ho capito qual è la sua posizione, probabilmente è a favore di Battisti libero, diciamo così, o comunque di una soluzione di non so che tipo per chiudere quegli anni. Chi critica il governo italiano, e per carità ci sarebbe anche motivo di criticarlo, perché magari alcune uscite di Berlusconi con Lula non sono state felicissime, per esempio quando Lula è venuto in Italia e Berlusconi sembra che non abbia posto davvero in maniera ultimativa la questione, o comunque in maniera forte la questione di Battisti, lo show con i calciatori brasiliani, eccetera eccetera. Si può criticare il governo per magari per non aver capito che la questione non era giuridica ma ma politica. Detto questo, però, non si può accusare il governo del contrario, insomma, di essere stato invece troppo rigido, comunque di avere sbraitato troppo, come fa qualcuno. Diego da Bergamo, buonasera. Buonasera, senta, dica. Io volevo poi dire la mia, alla fine non è che tutti vogliamo che torni Battisti, lasciamolo dov'è, alla fine poi ce lo dobbiamo ritrovare a pontificare nelle università, forse è meglio che stia là, no? Perché così va a finire. Bah, non lo so Diego, queste cose, quello che succede dopo non mi interessa, perché se uno poi trova successivamente una sua collocazione, certo in ambito pubblico sarebbe meglio di no, però se uno si reinserisce nella società non c'è niente di male. Sì, se uno si reinserisce dopo, ma non è che poi quelli che pontificano all'università siano decine e decine di ex terroristi, la maggior parte fanno una vita anzi non particolarmente florida. La ringrazio. Cesare da Verona, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Intervenivo in merito alla questione di Battisti, che sentivo prima una parte all'inizio quando era al telefono l'onorevole Ferrero, solo per stupirmi, ma poi non più di tanto, del fatto che quando è successa la tragedia a Cermis e sappiamo chi è stato la causa di tanto male, la cosa è passata un po' in secondo piano e adesso che arriva da un'altra parte si cerca di, o si fa, tutto quel rumore che magari non sì, però allora. Cioè, se io capisco che quando c'è in ballo una questione se ne scoprono altre o ci si ricorda di quello che è successo nel passato, ma va benissimo, possiamo parlare del Cermis, di altre cose, delle responsabilità americane, dell'atteggiamento del governo italiano all'epoca, quello che vogliamo, ma fine, cosa c'entra con Battisti? Non c'entra niente nel merito della questione di Battisti, nulla, alla fine, che alla poi fine, noi non facciamo valere le nostre ragioni come Stato. Questo alla fine, è vero. Alla fine il risultato è uguale, cioè si parla sempre di morti, morti in un modo, morti in un altro, hanno la stessa dignità, entrambi hanno una croce su che li ricorda. Io non voglio, per carità, salvare uno e demonizzare l'altro. Io dico semplicemente che come si dovrebbe trattare in un modo una cosa, dovrebbe essere trattata nello stesso modo la cosa quando arriva da un'altra parte. Si faceva prima il caso di Bielorussia, di tutte le situazioni. Se togliamo il soggetto che compie un'azione e non mettiamo che è uno Stato piuttosto che un altro, allora cambiano le cose. Se mettiamo, D'accordo, grazie, non ho capito, anzi è l'ultima parte dell'intervento dell'ascoltatore, ma va bene così. Dove andiamo? Loris da Firenze, buonasera. Sì, buonasera, mi sente? Dica, sì, la sento. Senta un attimino, io parlerei di Battisti, io farei una questione molto semplice, farei una colletta tramite il web e poi metterei una bella taglia. La taglia su Battisti, ecco. Però Loris, abbia pazienza, cosa, a parte che in questo momento è in carcere Battisti. Quando verrà liberato taglia su Battisti. Sì, ecco, sicuro, va. Ecco, basta così. Ecco, il primo moderato dell'anno che ha telefonato la Zanzara, perfetto. Primo liberale e garantista. Magnifico. Però Loris, abbia pazienza, devo chiamare l'ambulanza. Mentre la città. Vabbè, diciamo un'ambulanza soft, che è la canzone di Renato Zero. Però mi scusi, io per carità, come provocazione nei giorni scorsi in un'intervista al giornale ho detto che nei miei sogni c'è un comando che in stile israeliano fa un raid in Brasile e cattura Battisti, cosa che sarebbe secondo me assolutamente legittima, anche se chiaramente è una provocazione, per carità. Però insomma la taglia mi sembra un po' esagerato. Tommaso da Firenze, però collegamento con le isole Maldive, caro Parenzo, perché noi siamo qui, tu a Siena, io a Milano, città bellissima per carità, soprattutto Siena, il Granducato di Siena, eccetera, eccetera. Io a Milano sono tornato a lavorare oggi e qui insomma c'è un signore che sta alle Maldive, per carità, non è che alle Maldive ci va. Per lavoro? Ma in vacanza, credo, no? In un atollo. No, vacanza. In un atollo meraviglioso. Hai sentito già la voce? Il nostro caro amico mito Santo Versace. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Come si chiama questo atollo dove si trova, signor Versace? L'atollo di Ari nell'isola di Aturuga. Beh, insomma, atollo di Ari. Che ore sono lì, Versace? Qui praticamente mezzanotte è passata, sono 5 ore di differenza. 4 a mare, ma nel villaggio sono 5 ore. 5 ore, dunque, sono praticamente mezzanotte e 40. Insomma, lei per gli amici di, Del Sole 24 Ore stiamo ad aspettare. Senta Versace, ma che nottata è stata lì nell'atollo? Tranquilla oppure... Molto bella, molto tranquilla. Giornata bellissima. Uno dei nostri amici ha pescato ben 30 kg di pesce, quindi siamo tranquilli. Donne? I rifornimenti. Donne, che ti interessa? Chiedere subito le donne. Invidia la mia. Ma che donne che c'entra? Ma saranno affari di Versace. Donne di bellissimi, non c'è problema. Ah, che meraviglia. Vedi? Senta Versace, ma lei è lì da quanto tempo, così per curiosità? Ma praticamente io mi sono preso 10 giorni di vacanza, sono arrivato qui 3 giorni fa, espo un'altra settimana. E vabbè, com'è difficile arrivare lì in questo Aturuga, isola di Aturuga, atollo di... No, è abbastanza semplice, perché certo. Dall'Italia si arriva a male, poi da male che non l'idrovolante, che in 20 minuti si arriva. Ormai le Maldive, insomma, ci possono andare tutti alle Maldive, non è che... Diciamo che dipende dagli atolli. L'operaio della Fiocchi ci vuole cercare Aturuga. Che dice Versace, scusi? Un pochino costa, non è una vacanza. Non è una vacanza Fiocchi, diciamo. Può facilmente arrivare. Diciamo quanto le costa, una 5.000 così per questi giorni. Diciamo che poi Capodanno e Natale, Capodanno è il momento più costoso. 8.000 diciamo, dai. No, 8.000 no, che si va anche con la champagne, le cose. Arrivi a 8.000 subito? No, 8.000 no, 8.000 no. Sì, no, sì, non esageriamo adesso. Dipende dai posti, perché qui si va dai 3 stelle ai 5 stelle. Beh, lei sarà 5, immagino, Versace. No, Aturuga è un 4 stelle. 4? Sì, perché Maldive è un... c'è poi il Fortison, c'è Canura, tante altre cose. Ma a me Aturuga la preferisco, perché quando vieni alle Maldive non vieni negli eccessi. Qui è proprio bellissimo il villaggio, molto... Selvaggio. Quando c'è della notte, lì è 2.50. Sì, stiamo molto bene. C'è un mare bellissimo, si fa sport, si nuota, si prende il sole, si sta molto bene. Certo. Ci sono le ballerine. Che piedi nudi, si lasciano le scarpe quando si arriva e si rimettono quando si parte. Oh, mamma mia. Avete sentito? Adesso non voglio fare demagogia, per carità. Versace poi naviga su a livelli, insomma... La politica in vacanza è questa qua, anche questa qua. Non è che... Senta, ma è vero, Versace, che lei... Leggo qua che lei è stato uno di quelli, si attribuisce il merito di avere convinto Razzi e Scilipoti, mitico nostro Scili. Sono stati loro, il contatto è avvenuto, sono stati loro a cercarmi. Cioè, ci spieghi un po'. Dunque... Mi hanno cercato, ma molto tempo prima, perché non gli andava più di stare nell'Italia dei Valori. E quindi volevano uscire dall'Italia dei Valori, e siccome io ci parlo, cioè li ho conosciuti, c'è stato un bel rapporto, mi hanno chiesto che erano interessati ad uscire, a passare con noi o nel gruppo misto o d'altro, di avere dei contatti. Io proprio i contatti glieli ho creati. Addirittura mi pare di uno dei due, poi ho parlato con uno direttamente in una cena che facemmo come Fondazione Alta Gamma, Villa Gernetto, con Berlusconi, col presidente, e ho fatto a lui direttamente il nome di uno dei due. Cioè, dunque gliel'ha presentati lei? No, presentati. Gli ho detto le persone sono disponibili a passare. E poi ci ha pensato lui, è una specie di condimonio con Denis Verdini, con i coordinatori. Che dicevi, Parenzo? No, dico che l'onorevole Versace è stato una specie di carondimonio, per usare un'immagine dantesca, no? Carondimonio. No, ma diciamo che non ho fatto altro che dare possibilità a due deputati che non avevano voglia di stare in Italia dei Valori, per tanti motivi anche comprensibili, a poter fare un passaggio, a realizzare un loro desiderio. Ma in un periodo precedente, quando noi avevamo i grandi numeri ancora, prima ancora addirittura... Ah, lei dice che Razzi e Scilipoti ci pensano da tempo a questa cosa qui. Assolutamente sì. Ma senta, sta cosa del muto... Una decisione dentro di loro già maturata di lasciare... E che è maturata proprio dentro, per esempio non ha niente a che fare col muto... precisa, puntuale, prima del fatto che ci fosse la spaccatura con... Sì, con cioè è nata proprio come... Prima del voto di fiducia del 29 settembre. Dal di dentro, come sentimento, lei dice, non ha niente a che fare... Non intendevano stare più in quella collocazione. Noi eravamo ancora maggioranza netta di 340 e passa 350 deputati. Ecco, ma sta storia del muto di Razzi è vero o non è vera? Per quanto mi risulta, niente di tutto quello che si è detto è vero, perché si è detto di acquisti e compere. Queste persone avevano chiesto a me precedentemente perché gli faceva piacere parlare con me, ma hanno manifestato il loro desiderio di lasciare l'Italia dei Valori. Senza nessun tipo di... Assolutamente no, ma pensi, Massimo Galearo, ne abbiamo parlato prima, aveva lasciato prima tutto quanto, con Massimo Galearo ci parliamo benissimo dal primo giorno che siamo arrivati in Parlamento. Questi sono stati eletti dopo l'uscita di Veltroni, lui non è uscito dal PD, perché proprio lui era entrato nel PD per Veltroni, ma non sentiva più praticamente alla sua idea di pensare a Vendolo, di pensare poi a Di Pietro per come al gruppo dell'Italia dei Valori, l'ha portato fino a quando c'era Veltroni, ci è rimasto volentieri, è uscito Veltroni lui per lui. Senta, ma perché questi qua non sopportavano più Di Pietro, sia Razzi che Scilipoti, com'è la storia? Ma assolutamente no, loro dicevano che non gli andava più di stare con Di Pietro. E perché? Questo qui non poi non sai, quando mi manifestano questa volontà positiva io lascio perdere il resto. Beh, lei ha detto è difficile avere a che fare col boss, col capo dei capi. Sì, nel senso, effettivamente lì non c'è molta democrazia, non c'è molta libertà, c'è un controllo delle finanze che in tutti i partiti chi controlla la cassa realmente controlla la maggioranza del partito. Ma lei lo conosce Di Pietro? Io Di Pietro mi sono scontrato con lui nel 94 durante Mani Pulite. E come mai? L'ha messo sotto accusa? Ci siamo scontrati quando lui accusò i signori, cioè noi avevamo avuto le verifiche fiscali, noi e altri 10 aziende della moda, compreso Armani, compreso Carreda, altri, e in quel momento noi fummo concussi, ci fu un'estorsione ai nostri danni che lui voleva far passare per corruzione, lo abbiamo abbattuto nei tribunali, sia in appello che in Cassazione. Il pool Mani Pulite, Il cosiddetto pool Mani Pulite, che per certi aspetti chiamavo pool Cervelli Bagati. Come c'è pool Cervelli Bagati? Ma sì, perché per due motivi. Uno, perché loro in certi casi non si sono mossi a sinistra, quindi hanno fatto pulizia etnica, non lo dico, lo ribadisco da sempre. Poi perché nel nostro caso la concussione era evidente, chiara e tutto il resto, eppure hanno voluto comunque fare un processo che al primo grado, i miei avvocati mi hanno detto tranquillamente, guarda, del primo grado non si discute perché a Milano, al primo grado nessuno darà mai contro i magistrati del pool, assolutamente non c'è, però dice secondo grado e Cassazione li stracciamo. Senta Versace, ma della vicenda Battisti, lei ci faccia sentire un po' l'acqua, non c'è l'acqua delle Maldive, lo sciacquettino? Ma io ho chiuso per non avere disturbi, aspetta un attimo che la posso benissimo. Ci faccia, appunto, apra la porta del suo cottage. C'è la frutta nel cottage? Non lo so, sentiamo, ma voglio sentire lo sciacquettio dell'acqua delle Maldive. Maldive, è pronto, in diretta? Alla porta si sente il vento e si sente anche lo sciacquettio dell'acqua. No, non sento niente. Anche lo sciacquone, non lo sciacquone delle Maldive. No, lo sciacquone no, adesso. Lo sciacquone no, ma voglio dire, lo sciacquone diverso. Voglio sapere se è diverso da quello italiano. Lo sciacquone uguale? No, vabbè, bellissimo qui. No, lo sciacquone da 5 euro voglio sentire. Facciamo lo sciacquone dal verde, al mare colorato, colori stupendi. Però, ma non ci sono rumori, noi il rumore del mare non lo sentiamo, Versace, non sente niente. Io lo sento benissimo perché telefonino fuori, mi metta un attimo fuori il telefonino, mi faccia sentire un attimo, voglio sognare, voglio sognare. Telefono fisso, non posso spostarlo. Ah, c'ha il telefono fisso. Mi dispiace perché avete chiesto un telefono fisso, mi sono fatto chiamare sul fisso resort. Che disastro, perché non avete chiesto il cellulare? Tanto Versace può spendere, anche una telefonata in roaming, non c'era problema. Senta Versace, ma... delle regole. Quando la si... una volta... Se uno si chiama Versace, Todo scappa. Ballero, se no Versace, abbia pazienza. Assolutamente. Quello che è vero, mica se ne vergogna Versace. Mica si vergogna di essere ricco. Guarda, sa che perfettamente cosa dico sempre. No, ma la lui moda è un fatto straordinario per l'Italia, insieme a tutti. Tra l'altro, si ricordi, io sono presidente della Fondazione Alta Gamma, dove non solo c'è la moda, ma c'è il design, c'è l'alimentare. Che c'entra col fatto che lei è ricco, scusi? C'entra col fatto che sono le imprese di punta della Presidente Alta Gamma in quanto presidente della Versace, in quanto facente parte una delle imprese di punta dello stile vita italiano. Certo, senta Versace, ma lei fosse nel governo italiano, che farebbe con Battisti? Lo andrebbe a prendere con una sorta di raid alla Israele? Ma quello di raid alla Israele sono contrario, perché effettivamente sono per il rispetto dello Stato di diritto, della legge e tutto, però chiaramente penso che bisogna incidere, bisogna far spiegare bene ai brasiliani che non si tratta di uno... A Lula come lo politico, considera? Di un fatto di che una sentenza in Italia c'è la democrazia, e se è stato condannato dai magistrati è stato condannato in quanto colpevole di omicidio. Niente raid, niente raid. Ma il raid lo eviterei, perché altrimenti significa ritornare alla violenza e non rispettare le leggi. Ma è una mia follia, non è che sia una cosa reale. Dentro di noi possiamo anche pensarlo, ma sul piano applicativo, se uno ha senso dell'equilibrio, deve rinunciare a queste forze. Senta, ma lì in quell'atollo ci sono altri deputati, no? Per carità. Ma ho letto che ci sono Casini, che c'è De Benedetti, che c'è Schifani, so che ce n'è un sacco in giro. So che c'è il ministro della sanità in un'altra isola, so che c'è Ferruccio, so che c'è anche Paolo Romani in un'altra isola, tutta gente che ha una settimana di break. Non so poi se Paolo Romani, ma ha detto che non partiva perché c'ha tutti i tavoli aperti. Certo. Viva le Maldive! Di nuovo collegamento fra poco. Chiamato sul cellulare per 3 minuti. Può spendere Versace, voglio sentire l'acqua delle Maldive. A tra poco. Intanto, prima di un nuovo collegamento con Santo Versace, dall'atollo, caro Parenzo, di Aturuga, isola Aturuga. Di Aturuga, atollo di Ari. E vabbè, c'è cioè chi può e chi non può. Prima di un nuovo collegamento con Santo Versace, sentiamo i titoli del TG1 di Augusto Minzolini. Morto per la pace, folla commossa ai funerali dell'alpino ucciso in Afghanistan, l'omelia non fuggire da lì. Strage ai cristiani in Egitto, chiesa copta nel mirino di Al-Qaeda, padre Lombardi, papa preoccupato per la libertà di tutti, Berlusconi, esordio positivo in borsa per le due nuove società del gruppo, Marchionne, se i lavoratori bocciano accordo saltano investimenti a Mirafiori. Caso Battisti, ancora polemica tra Italia e Brasile, domani manifestazione a Roma e Milano contro la mancata estradizione. Scade il mandato di governatore della California per Schwarzenegger, carriera politica finita, ora Terminator potrebbe tornare al cinema. Troppe calorie da smaltire dopo i banchetti delle feste natalizie, risultato testa e stomaco appesantiti, ma basta una dieta equilibrata e in soli due giorni si può tornare alla forma migliore. Eccoci qui alle 21 minuti, abbiamo fatto ascoltare il titolo del TG1 a Santo Versace, che nel frattempo si è spostato, come sentite. Sono coi piedi nell'acqua perché sono praticamente nel mio bungalow a 15 metri dal bagnasciuga. Dovreste sentire molto bene adesso il rumore dell'acqua. Sentiamo benissimo. Lo sentite? Sì, sentiamo si benissimo. Ecco, c'è una serata stupenda, stellatissima, piena di stelle. Capito, Parenzo? Un cielo stellato lì. Parenzo, mi senti? Pronto? No. Versace. Io mi sento benissimo. Senta, ma sì. ci metta il telefonino lì vicino all'acqua. Voglio sentire proprio l'acqua. Che l'acqua che. Sì, l'ho messo qui, siamo sul bagnasciuga. Lo metto proprio nell'acqua. Butti il telefono nell'acqua. Butti il telefono nell'acqua. Che gli frega, dai. Le onde. È bellissimo. Senta, ma. Radio, i piedi nell'acqua, poi la chiamiamo al fisso. L'acqua com'è? Caldissima, bellissima. Caldissima. Adesso di sera è tutto a poi buio, fitto. Comunque di giorno è bellissimo, trasparente. Senta, ma lei dorme da solo, no? Per farmi gli affari suoi, ma lei dorme da solo lì in quell'atollo? No, c'ho la mia compagna con me, l'avvocato Francesca De Stefano, con cui siamo insieme da qualche anno. Parenzo, cos'erano quelle quelle malelingue di prima? Ma ci sono le danzatrici anche, no? Ma che c'entro le danzatrici? Ma che le Maldive, no, mica un po'? Io immagino questi atolli come quelli di 007, la domandava sempre James Bond, dove sono queste danzatrici? Ma che c'è? Ma tu sei. Ma sei vecchio tu, ma sei di un'altra generazione. Ma io adoro le danzatrici. Ma no, ma che spettacoli ci sono lì la sera in quegli atolli? Nessuno, non sono spettacoli. No, è un atollo tranquillo questo, lo dicevo prima, siamo molto sportivi, la gente va a pesca. Da coppia, diciamo, è tipico da coppia. Va a nuotare, non c'è bunga bunga tutto il giorno. Non ci sono bunga bunga, vari, no? È un isolotto, praticamente ci sono tutte coppie, molte coppie, noioso. Molte famiglie con bambini. Ma noioso, bunga bunga niente, no? Bunga bunga, cose di questo tipo. È un atollo di cinque all'interno delle coppie. Ah, solo all'interno delle coppie, bunga bunga. Io ho la mia compagna, quindi basta e avanza. Basta e avanza, vabbè. È un atollo democristiano, quello. Molto democristiano. No, no, non democristiano, un atollo sano. Sano. Un atollo sano. Un atollo sano. Di sani principi, di sana etica. Senta, però ma poi ci sono i giovani. Per il Baldoria ne fanno anche gli altri, io non le faccio. Beh, come non le fa? Qualche bunga bunga pure lei lo farà, con la sua compagna, carina. All'interno della coppia. All'interno della coppia. Senta, ma una cosa ancora sul signor Razzi. Lo sa che noi lo stiamo cercando da giorni, pare che abbia dato solamente a Verdini il nuovo numero di telefonino e non è introvabile questo Razzi. Lei ci può aiutare in qualche modo? Beh, io adesso non lo cerco perché siamo in vacanza, che tramite batteria lo troverete facilmente. Ma come no? Tramite batteria lo trovate. Quindi i numeri della batteria voi li sapete tranquillamente. La batteria lo rintraccia sempre. Senta, ma lei pure pensa che il PDL. Certo, lei pensa. Anche lei pensa che il PDL debba avere un nuovo nome. Si pensa a Popolari, ma non, Popolari è una cosa tremenda. Come si fa a dare un. Diciamo, c'è il discorso di Berlusconi. Il presidente mi ha detto: sono stata a cena anche da lui il 20 dicembre, abbiamo parlato molto, mi ha detto anche sto fatto qui, del discorso di un nome. E lei cosa ha detto? Di un rilancio, assolutamente. Ma per quanto mi riguarda, se si trova, sì, anche perché giustamente vuole ritornare ai concetti e alla forza che si espresse. E che nome darebbe lei? Politica nel 94. Ma non ci ho pensato a questo, ci pensa lui, poi vediamo di valutare. E tanto lei partiva. Ognuno faccia la sua roba, questa è un'idea. È sempre stato vincente nei nomi, quindi lasciamolo fare a lui. Se mi chiede un parere, mi esprimerò, ma in questo momento non interferisco. Quando torna lei dalle Maldive, da questo atollo meraviglioso di Aturuga? Fra una settimana. Praticamente mi sono preso 10 giorni di break. Va bene, Buona serata. 6, 7, 8 e 9 sono vacanze. Anche a voi, buona vacanza a tutti, buona serata a tutti, buon lavoro a tutti. Grazie, 20 e 5 minuti, era Santo Versace, le vacanze dei parlamentari, atollo di Ari, isola di Aturuga. Stefano da Milano, buonasera. Lei invece, Stefano, è andato mai alle Maldive? No, no. Sono qua a Milano adesso. Anch'io. Sto mangiando la pasta. Vede, passiamo dall'atollo di Aturuga a lei che mangia la pasta. Insomma, esatto, siamo... no, l'ho anche finita adesso. Dica. Senta, velocemente, per il discorso Battisti, sì. Io non sono di sinistra, non sono comunista per dire, no? Io però alla fine sto con Lula perché noi sull'argomento giustizia non siamo credibili. Cioè, Berlusconi, il governo italiano, sulla giustizia non è credibile con nessuno. Quindi ogni richiesta cade nel vuoto. Ma non è vero che è così. No. Ma sulla giustizia, io penso che purtroppo sulla giustizia non è un discorso contro Berlusconi, no? Tutto ci mancherebbe, lui è bravissimo gli affari. Guardi, chi dice. Però la credibilità ci vuole. Se Marchionne domani vai in Brasile, secondo me apre 10 stabilimenti in 5 minuti. Perché è credibile. Noi sulla giustizia, purtroppo su questo argomento, che ci sia Lula o magari un domani ci può essere un altro caso in un altro paese, ma secondo me no, non portiamo a casa niente. No, ma voglio dire, Stefano, se uno pensa che il no all'estradizione di, prima della Francia, non solo di Battisti ma anche di altri terroristi, e dopo del Brasile o di altri paesi, abbia a che fare con la considerazione che hanno questi paesi della giustizia in Italia, si sbaglia di grosso. Non è così, non c'è niente che riguardi una considerazione sul sistema giudiziario italiano, sulle carceri italiane. Ci sono motivi che per la maggior parte dei casi sono motivi politici. D'altra parte, ma se lei mi scusi, Cucciani, se lei sentisse Putin, no, che farebbe, direbbe qualcosa, non so, su un problema giudiziario, sulla giustizia, cosa penserebbe da questa parte? Ma scusi, cosa c'entra questo qua? Non è la situazione, dire, la situazione della giustizia in Italia non è mica la stessa, sì, che no, ci può essere. Secondo me, io penso che sia un fatto di credibilità, ecco, questo. Se avevamo un altro presidente del Consiglio, no, ripeto, no, di centrodestra, ma non ce l'hanno dato, non avremmo portato a casa questa cosa, l'avremmo portata a casa. Assolutamente. Con Berlusconi, secondo me, sulla giustizia non portiamo a casa nulla. Per me è una battaglia persa, infatti mi pare di capire che lui non intervenga tanto in prima persona e manda avanti gli altri. Guardi, Stefano, questa è una tesi rispettabilissima, per carità, non sto dicendo che è una follia, assolutamente no, non è nella maniera più assoluta d'ambulanza, però le dico anche che domande di estradizione fatte da governi di sinistra, di centrosinistra in Italia, sono state respinte allo stesso modo, dunque non è una questione di governi di centrosinistra o di governi di centrodestra. Un peggioramento c'è stato, via. No, Stefano, questa è la sua opinione, legittima, per carità, la rispettiamo. I titoli della 7. In borsa va bene lo sdoppiamento della Fiat, mentre Marchionne dice se vincono i no nel referendum di Mirafiori niente impianto torinese, e arrivano poi le notizie sull'anno 2010 nerissimo per l'industria dell'auto. Sul caso Battisti la politica italiana tende a unirsi, mentre dal Brasile non arrivano certo notizie rassicuranti. Domani potremo vedere per la prima volta a manifestare insieme la Santanchè e Di Pietro. Bossi denuncia la presenza di microspie cimici per spiarlo nei suoi uffici romani. Ho fatto bonificare tutto, ma non ho fatto denuncia, tanto è inutile. Intanto Libero, il giovane sospettato per le bombe e carta contro la Lega a Gemonio. Non c'erano indizi sufficienti. Tensione tra Berlusconi e Tremonti. Il premier teme le mosse del suo ministro, che tiene strettissimi i cordoni della borsa e fa asse, ma non da oggi, con la Lega. E i conti intanto danno dei segnali positivi. Composto una volta tanto, senza inutili applausi, l'ultimo addio a Roma all'alpino Matteo Miotto, ucciso in Afghanistan. Oggi un ordigno esploso a Herat dopo il passaggio di un convoglio italiano. Però per fortuna è superiore. Dopo la strage di Capodanno, Alessandria, allarme in tutto il mondo per i possibili attacchi contro le chiese cristiane di fede ortodossa. La data cruciale è appunto venerdì 7 gennaio, quando gli ortodossi festeggiano Natale. Calcio mercato, assegno il colpo della Sampdoria che avrà Macheda in prestito dal Manchester. Confermati i contratti di Cassano col Milan e Ranocchia con l'Inter. Bene, bene, 20:10, avete sentito nei titoli della 7, caro Parenzo, gli attriti tra Berlusconi e Tremonti, sarà il caso di richiamare il nostro ministro, che dici? No, lascialo lì in baita, che sta preparando la cena di domani sera. Domani sì, che cena c'è? La solita cena? La cena degli ossi, una tradizione. A Calalzo, no? Nel Cadore, vicino a Belluno, vicino a Cortina. Credo che Tremonti però ci vada domani, Ci vado domani, vai alla cena degli ossi. Bene. Pubblicità, poi Michele da Caserta, Rizziero da Frosinone, Pasquale da Bologna, Antonio da Pavia, Tommaso da Firenze e altri ancora. 800 24 0024, la Zanzara resta con voi come al solito fino alle 21. Siamo qui con lo Zanzara Party di questa sera con Davide Parenzo in collegamento dalla provincia di Siena. E gli ascoltatori, naturalmente. Dove andiamo? Direi Michele da Caserta. Prego, Michele. Buonasera. Dica pure. Per fare il pari con Parenzo, io chiamo dal Regno delle Due Sicilie, il Borbone. Bravo. Ecco, innanzitutto cominciamo a distinguerci, a essere orgogliosi della nostra tesa. Volevo intervenire su Battisti, perché sono un po'... Io ho 40 anni, sono nato nel 70, mi sono formato su Zavoli, leggendo Zavoli, ascoltando Zavoli su questo argomento, e non ne posso più di questa guerra tra Sicilia, Guelfi, Ghibellini, non ne posso più. Ma guarda, allora, che non c'è nessuna guerra tra Guelfi e Ghibellini, cioè gli italiani, per fortuna, su questa vicenda qui. Cruciani, mi faccia finire. Dialettica, dice lei. È una dialettica veramente però inconcludente. Io ritengo che più di altri hanno rappresentato il pensiero degli italiani è stato un ex comunista come Giorgio Napolitano, che penso che tutti noi ci riconosciamo in quello che ha detto. Io, come pure uomo di sinistra, mi sento defraudato dal diritto di vedere una persona colpevole in base a giudici, finanche della Cassazione, scontare una pena anche di un giorno nelle nostre carceri. Va bene, ho capito. Il problema però qual è? Che io chiedo a lei o a Parenzo, a chi lo sa, siccome non è Lula di sinistra, ma anche Presidente della Repubblica Francese, Mitterrand prima, Sarkozy dopo, che hanno negato il diritto all'estradizione, io mi domando... Lasciamo stare gli eccessi, gli opposti estremismi di Ferrero, che rappresenta lo 0, qualcosa, o Borghetti o Ghibellone. Perché, per esempio, la Francia ha negato l'estradizione? A me risulta che giuristi francesi, e per tradizione la Francia, non riconosce il nostro sistema di legislazione antiterrorismo legale o quantomeno rispettoso della Costituzione. Mi spieghi lei perché? No, ma non è così. La Francia, Michele. Ho capito, ma è una vecchia... Michele, un attimo solo, Parenzo, sennò ci accavalliamo con le voci, non si capisce nulla. Il punto fondamentale è uno solo. Mitterrand decise alla metà degli anni Ottanta, all'inizio degli anni Ottanta, di accogliere alcuni fuoriusciti per questioni che hanno a che fare con la tradizionale legislazione francese di accoglienza, eccetera, eccetera. Però anche qui con una mistificazione assoluta di quello che sta avvenendo in Italia. Cioè, non è che siccome la Francia per anni ha avuto una certa politica, allora siamo noi ad aver sbagliato. È che la Francia non ha mai capito esattamente quello che accadeva in Italia, dove le persone che fuoriuscivano dall'Italia e che andavano in Italia non erano dei rivoluzionari in fuga da un regime dittatoriale, non erano delle persone che venivano torturate, eccetera, eccetera, ma erano nella maggior parte dei casi delle persone che avevano commesso gravi reati, punto. Questa è la cosa fondamentale. Gianni, posso interrompere? Sì, dica. Allora il problema è dei nostri intellettuali, ma soprattutto dei nostri politici, che non sanno rappresentare la verità. Questo, certamente, anche questo. E anche questo, certo. In tantissimi anni, Michele, in tanti anni non siamo riusciti, e in primis sono stati i nostri governanti, perché probabilmente avevano su queste vicende delle colpe da rimproverarsi, o non volevano fastidi Per molti anni non siamo stati in grado di spiegare ai politici francesi, non lo abbiamo fatto, ce ne siamo fregati, di spiegare che in realtà negli anni di piombo non c'era nessuna dittatura, non c'era nessuna tortura, eccetera, eccetera, ma c'era uno Stato di diritto che certamente in una situazione emergenziale faceva valere i suoi diritti, punto. Questa è la sostanza. Posso dire un'ultima cosa? Sì. Poi saluti e dico buon anno a tutti. Santo Versace alle Maldive, io sono contento per lui, perché è una persona che con la sua famiglia è nata povera tra virgolette, e grazie al merito e al successo ha avuto successo e è oggi milionario. Sono dispiaciuto per lui che abbia un fratello che ancora non ha avuto giustizia della sua morte. Io mi spavento di quei politici senza arte e senza parte che stanno alle Maldive. Mi domando con quali soldi. Vabbè, che significa? Ognuno va alle Maldive con i suoi soldi. Comunque è vero che Parenzo ha ricevuto un sacco di mail di persone dall'inizio del collegamento con Santo Versace indignate per il fatto che Versace è alle Maldive in collegamento. Comunque in vacanza. Qual è il punto? Ci sono tanti italiani che vanno alle Maldive e non ci può andare Santo Versace. Ma di che stiamo parlando? 20:16, traffico. Io farei ogni giorno un collegamento con Santo Versace seduto lì sulla riva accanto al suo cottage con i piedi a mollo. Sarebbe fantastico, no? Che ci racconta la giornata tipica di Santo Versace alle Maldive. Che dici, Parenzo? Lo facciamo? Sì, no, va fatto assolutamente. La giornata di Santo Versace alle Maldive, nella tollo, mentre mangia il mango, la frutta, meraviglioso. Come si chiama? Atollo di Aturuga, anzi atollo di Ari, isola di Aturuga. La giornata di Santo Versace. Traffico. E siamo qui con Frosinone, con Rizziero che ci chiama appunto. Buonasera. Dalla città Ciociara. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica pure, signor Rizziero. Volevo dire, qualche minuto fa il dottor Parenzo aveva fatto un'osservazione interessante. E osservazione che, interessante, interessante, diciamo un'osservazione. Non esageriamo. Un po' anche beffarda, dicendo che la Lega teneva per il bavero Berlusconi. Mi sembra questo. Beh, questa certo, è la solita opinione di Parenzo. Sì, però la cosa. Quando uno ha un'alleanza, secondo Parenzo c'è qualcuno che tiene per le palle qualcun altro. Sì, però ecco, la cosa fondamentale. Che la Lega è l'unica forza politica oggi che ha fatto un patto leale con i propri elettori e lo sta portando avanti con grande serietà e professionalità, perché ovviamente lui ha detto io voglio il federalismo, sì, e quindi sta portando avanti una battaglia politica che nessun'altra forza politica oggi sta facendo, ossia è l'unica che ha dato un chiaro intento al proprio elettorato su quali erano i propri obiettivi politici. Sì, no, ma ora l'osservazione di Parenzo è stata un po' beffarda nei confronti di una forza politica che è l'unica che mantiene un atteggiamento leale nei confronti dei propri ma Parenzo voleva dire semplicemente che in questo momento la Lega è una sorta di golden share all'interno della maggioranza. Sì, questo voglio anche dire che è talmente fedele rispetto al patto con il proprio elettorato che se ne frega di Berlusconi. Cioè non è che gli interessa Berlusconi, D'Alema, Prodi o Batte la Pesca o Telma. Alla Lega interessa il federalismo, quindi si allea con chiunque, cioè usa la politica, il governo come un taxi per ottenere i suoi obiettivi. Vabbè, adesso sono un po' di anni che è alleata con non il centrodestra, insomma. Ma se uno sente le telefonate a Radio Padania Libera, ad esempio, sì, o legge la Padania, cosa che io ogni tanto faccio perché è un giornale divertente, nota che non sono Berlusconis, no, assolutamente, anzi lo guardano anche con un po' di disgusto, gli fa un po' schifo quest'uomo ricchissimo, un po' bauscia, il Surban Villa e le ville, le feste, cioè, le secondo cose. Te sarebbero pronti a mollarlo in un secondo? Non possono farlo perché voglio dire sono ancorati alla tradizione del centrodestra, la questione degli immigrati è fondamentale per la Lega, quindi sono ancorati in un elettorato di centrodestra, ma non è che abbiano, come dire, una grandissima stima di Berlusconi in quanto certo, suo uso questo, della ricchezza, no? Questo non c'è dubbio. Rizziero, grazie. Andiamo a Bologna da Pasquale, buonasera. Sì, salve, buonasera a lei. Dica. Senta, io volevo intervenire sul caso di Battisti. In particolare volevo sottolineare una cosa che storicamente riguarda l'Italia, che è un gigante economico ma purtroppo un nano politico, perché sconta purtroppo il retaggio della storia più recente, dal fascismo in poi, dalla seconda guerra mondiale in poi. Ci sono dei casi che apparentemente non sono legati tra di loro, perché in punta di diritto neanche si somigliano, però hanno dimostrato che l'Italia, quando si trova di fronte a casi internazionali, di diritto internazionale, di politica internazionale, purtroppo conta pochissimo. Hanno segnalato altri radioascoltatori il caso del Cermis, ma potremmo dire il caso Calipari, potremmo risalire al 99, non so se ricorda, durante il governo D'Alema, il caso Shalan. Caso in cui a parti invertite l'Italia ha fatto in modo che Ocalan sparisse dal territorio italiano, a parti invertite perché si trattava di proteggere qualcuno che era nella stessa condizione di Battisti. Purtroppo l'Italia, quando si trova in queste situazioni, non è nella condizione politica di poter rivendicare diritti sacrosanti, come fa scontare la pena a qualcuno. Sì, non lo so, sulla debolezza internazionale dell'Italia si può discutere fino all'infinito. Ripeto, secondo me probabilmente il Brasile non si sarebbe comportato così di fronte ad un'altra, ad un altro paese, ma non è nemmeno detto, magari lo avrebbe fatto lo stesso per fare, appunto, per ragioni di orgoglio nazionale, anche nei confronti di grandi paesi. Ripeto, c'è una questione che va al di là del peso dell'Italia, di quello che ha fatto il governo, e sono i legami molto stretti di Battisti e soprattutto dell'entourage di Battisti con una parte consistente del governo brasiliano, cioè gli estremisti di sinistra all'interno del governo brasiliano. Lula per tre anni ha lasciato fare, non ha voluto spaccare il partito, non ha voluto sulla questione Battisti prendere una decisione che andasse contro una parte ancora consistente del suo partito. Questo nonostante il pragmatismo dell'uomo, che è sempre stato uno che, insomma, è diventato idolo della sinistra mondiale, ma nello stesso tempo poi faceva accordi e stringeva la mano al cattivo Bush. Mario Borghezio, buonasera. Buonasera e buona Padania a tutti. Aridaia, questa buona Padania, che è una tradizione di Borghezio. Caro Borghezio, lei, per prendere Battisti in Brasile e riportare in Italia, cosa farebbe? Me lo dica subito. Ma io... Una follia, la farebbe una follia? Non farei nessuna follia, perché i delinquenti li abbiamo già abbastanza in Italia, le nostre carceri sono piene. Però a Battisti un po' di sana galera gli farebbe molto bene. Già c'è in galera. Che non tratta poi malissimo i super delinquenti come questo, perché questo non è un patriota o un rivoluzionario, questo è un volgare delinquente che astutamente si è dato una mano di ricopertura politica, ma delinquente era, delinquente resta, e soprattutto ha l'animus del delinquente. L'animus delinquente, perché risponde alle domande sulle sue colpe, sui suoi assassini, con un riso beffardo. Non ha detto una parola di ricordo e di comprensione verso il dolore delle vittime, dei parenti delle vittime, ovviamente, né tantomeno il ricordo delle povere persone. Per cui lei non farebbe un raid in stile Israele per andarsela a riprendere, no? Guardi, i raid sono evidentemente contrari al diritto internazionale. Io credo nel diritto internazionale e credo soprattutto da cristiano convinto nella giustizia divina, per cui questo delinquentaccio pagherà prima o poi. Ne sono però la giustizia divina, un paese dice lei, che si rispetta, che viene rispettato sul piano internazionale, si fa rispettare. Io ho l'impressione che il governo sia stato, come dire, un po' non sufficientemente duro su questa situazione. Cioè, mi spieghi Lula, bene, Borghezio. Lula, cioè, ci ha preso in giro. Lula ha preso in giro il governo italiano, questo può succedere, adesso si tratta di tirare fuori le unghie, fare certamente, come il governo ha annunciato, il ricorso al Consiglio federale, al Supremo, eccetera. Però a questa specie di lei cosa farebbe? Ma io sono boicottaggio, boicottaggio commerciale. Dica qual è la linea che una risposta economica, bisogna toccarli sulle questioni. Direi il minimo che si possa fare è un boicottaggio economico. Beh, ma si ritorcerebbe contro di noi, Borghezio, il boicottaggio economico. Ma perché io credo che quando sono in gioco delle questioni moralmente importanti, è stato ucciso a sangue freddo un poliziotto, è stato ucciso a sangue freddo un povero gioielliere che non aveva nessuna responsabilità politica. Io le dico però una cosa in aggiunta. Confido più che nel successo di eventuali iniziative, mi sembrano un po' tenui, del governo italiano, confido nella pressione dei 25 milioni di italiani e soprattutto moltissimi milioni di padani di seconda, di terza e quarta generazione che vivono in Brasile, votano e faranno sentire la loro voce. Noi li abbiamo raggiunti, attraverso Radio Padania Libera, che li sa per internet, è trasmessa e sentita anche dai padani. E che dovrebbero fare questi padani che sono... E questi padani nel mondo, ovviamente in Brasile, figli dei figli di quelli che sono andati là per lavorare, non per spacciare, e faranno sentire la loro voce, faranno una pressione, credo, determinante. La nuova Presidente della Repubblica dovrà sentire questa voce e anche il peso, sono 25 milioni di persone. Beh, mica sono tutti padani però. Non sono tutti padani, ma sono tutta gente per bene che non ha niente che spartire con delinquenti della forza di Battisti. Io spero che... Borghezio, sulla Padania ho letto, boicottiamo il Brasile, vabbè, uno può dire boicottare, niente più viaggi, niente più prodotti, tutto secondo ciò che... Secondo me è molto più importante l'azione attraverso i padani in Brasile. Ma che devono fare sti padani in Brasile nel mondo? Perché sono 25 milioni, se si muovono loro, voglio dire, il potere politico deve ascoltarli, non dovrà ascoltare solo questi quattro. Ma ormai sono brasiliani quelli, non è che sono italiani, sono brasiliani. Sono brasiliani, ma hanno nel sangue il DNA della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Guardi che sono più attaccati alle nostre tradizioni i padani che vengono in Brasile di molti padani che vengono qua. Senta, ma Berlusconi è stato troppo molle con Lula, il governo chiaramente ha voluto e dovuto tener conto degli enormi interessi privati e pubblici che ci sono, come tutti sappiamo, interessi della FIA, dell'Impregilo, della TIM e della Finmeccanica. Fosse per lei se ne fregherebbe di tutti, fosse per lei Borghezio, tutti da parte del governo, però non quando sono in gioco delle questioni di moralmente importanti come queste, cioè il ricordo, il rispetto per le vittime dei reati quando sono vittime del tutto innocenti, perché non si può dire che questo gioielliere, questo poliziotto avessero fatto qualche cosa alla loro vita per giustificare, se anche possa essere giustificato, un assassinio. Questo è un delinquente comune, non è un rivoluzionario. Beh, è un terrorista, altro che delinquente. Un mascalzone di prima categoria. Chi lo difende, e ci sono state firme autorevoli da Lauro ad altri bei personaggi della sinistra italiana. Anche Saviano l'ha difeso all'inizio, poi si è pentito. No, poi si sarà ricorretto. Comunque ha fatto una pirlata eccezionale, non è la sola. Io credo che nei confronti di un personaggio come Battisti ci dovrebbe essere un'union sacrée di tutte le persone per bene. L'union sacrée, mi piace questo termine. Indifendibile. L'union sacrée. Chi lo difende è fuori dal nostro ordinamento morale, prima ancora che giuridico. Capito Parenzo? Vabbè. No, beh, ho capito. Niente di nuovo sotto il sole. Un Parenzo, mutante io lo conosco, quando si tratta con Lula ed è una persona per bene. Però in questo caso io lo inviterei a considerare il peso morale della responsabilità di uno che va davanti allo gioielliere e spara al gioielliere. Ma Parenzo, guardi che Parenzo è d'accordo con l'estradizione, non credo che sia. Sarà d'accordo con l'estradizione. Chiariamo questo punto. No, sono non assolutamente mi d'accordo con l'estradizione, perché siamo criminali. Senta Borghezio, ma all'Unione Europea, al Parlamento Europeo, che farete? Niente su questa vicenda qua, niente. Ma abbiamo fatto, ma sa cosa vuole che serva? Succede lì, niente. C'è un'opinione pubblica, non riusciamo neanche a smuoverli per la situazione della libertà religiosa in Egitto. E il Parlamento, questa super lobby europea ha come orizzonte spirituale l'andamento dell'euro, i traffici, le borse, le banche, eccetera. Cosa gliene frega dei valori morali? Niente, meno di niente. Senta, ma è vero, qui sono in gioco dei valori morali. Senta, ma è vero, secondo lei, passando ad un altro argomento, che Tremonti ha pronunciato questa frase nei confronti di Berlusconi: per abbattere il fascismo c'è voluta una guerra mondiale, per sconfiggere il comunismo è servito un supermercato, per Berlusconi è bastata una minorenne marocchina. Ma per adesso intanto Berlusconi non è caduto, quindi sarebbe una pura ipotesi. Ecco, ma è credibile che Tremonti faccia battute di questo tipo? Sì. Ma che Tremonti sia un battutista è chiaro, che abbia detto una battuta, abbia fatto una battuta del genere mi sentirei di dubitare. Comunque se l'ha fatta, tutti possono fare le battute che vogliono. Quello che conta, per quanto mi riguarda, è che Tremonti faccia bene il ministro dell'economia, e secondo me lo fa bene. Ma fosse per lei lo sostituirebbe subito Berlusconi con Tremonti, fosse per lei. Io per ora voglio che Berlusconi mantenga gli impegni che ha preso con Bossi e con la Lega e col popolo padano, quello di fare le riforme che necessitano, anche se ovviamente sono convinto che questa è una via lunga, faticosa, dubbiosa. Ma come lei, lei a Strasburgo ci ha detto, che era per la decisione. Ha detto che era se mi lasci terminare, glielo dico, meglio sempre una sana, onesta, chiara, pulita secessione, mandandoli tutti a prendere. E poi ognuno per sé, Dio per tutti, tanto c'è un Dio per tutti, quindi anche per quelli che sono al di là della linea gotica. La linea gotica, la mitica la linea gotica. Scusi un attimo, perché lei l'Italia la dividerebbe a che punto? Alla linea gotica? Ma diciamo che ho, ovviamente io sono per la Grande Padania, quindi la linea gotica è un'espressione così, diciamo, ideologica. Ecco, appunto, riprendiamo da qui, cioè secondo Borghezio i confini della separazione dell'Italia, perché di separazione stiamo parlando ed è quello che avverrà, no Borghezio, giusto? No? L'Ambiente, la provincia di Roma, la Toscana è tutta buona, Vabbè, poi scendiamo nei dettagli fra poco. Le Marche sono buone. Le Marche buone, Nord, cioè Marche. E poi il resto purtroppo ci sono delle zone di andiamo confine. Nello specifico fra pochissimo dopo la borsa. Siamo qui, caro Parenzo, con Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Abbiamo sentito prima Santo Versace che sta trascorrendo le vacanze di Natale alle Maldive. Lei, Borghezio, dove le ha trascorse le vacanze e dove è adesso? Le ho trascorse a Parigi, però se voi mi consentite vorrei dare una notizia che è passata rapidamente sui telegiornali. E cosa? È la grande manifestazione dei giovani copti, egiziani copti a Milano davanti al consolato. Consolato quale? Scusi. Hanno tutti il volantino dei volontari verdi di Padania Cristiana. Questo si è visto chiaramente nelle immagini dei telegiornali. Organizzata da Max Bastoni, una grande manifestazione, diciamo, di solidarietà verso questi giovani copti, cristiani, egiziani. Sì. Questi sono gli immigrati che noi rispettiamo, e io ho detto con chiarezza, colgo l'occasione della vostra ospitalità per ribadirlo, con questa gente perseguitata nel proprio paese per le proprie per la propria fedeltà alla propria tradizione, alla propria religione cristiana, sia pure copta, io dico che noi dobbiamo essere concretamente solidali, quindi questa è gente che noi tuteleremo sempre. Senta, e tra l'altro ci siamo dati appuntamento, hanno raccolto la mia proposta di vederci tutti domenica mattina alle 11 davanti al Duomo di Milano. Io credo che sia una svolta importante, tutti conoscono la politica che noi abbiamo seguito fino adesso. Noi rappresentiamo l'ala dura della Lega, Bastoni, io, Volontari Verdi, siamo sempre Bastoni stati, non è con questi egiziani, con questi cristiani di origine egiziana, ci sentiamo solidali e li sentiamo fatti. Senta Borghezio, ma cosa le stavo chiedendo? Le stavo chiedendo qualcosa che riguarda i confini, siamo curiosi di sapere dove arriverà, diciamo, la Padania. Ma intanto io le dico che ritengo un grandissimo saggio quello uscito in questi giorni, l'ho comprato in questi giorni a Parigi, di Garodì, l'elogio delle frontiere. Vabbè, io credo che sia importante il ruolo delle frontiere, non bisogna qui ci vogliono in una mescolanza, in un melting pot, per tutti carità, uguali, no, e invece le frontiere sono importanti perché bisogna Il filo spinato, no, meglio se col filo spinato, magari, no? No, senza fili spinati, con grande amicizia. L'Italia del centro-sud sono i nostri vicini di casa, come d'altronde i francesi, eccetera, gli svizzeri. Ovviamente noi siamo più portati verso i francesi che verso gli svizzeri, questo sarebbe, e verso gli austriaci. E dunque il confine dell'Italia del centro-sud, diciamo, il confine dell'Italia del centro-sud. Dove va messo questo confine? Però il centro-sud è brava gente, naturalmente non i mafiosi, i camorristi, la gente del centro-sud è Quanta brava gente c'è al centro-sud, secondo lei, in percentuale? Secondo me l'80%, almeno. Almeno l'80-90% è brava. Come buono lei, Borghezio? No, io non sono buono, sono realista. Però hanno fino adesso avuto il torto di lasciarsi intortare, scusate il gioco di parole, no, per carità, dai loro politici che li hanno presi per i puntini, e questo è la loro colpa. Per cui noi questo confine dove di liberarsi alla classe politica, certo, ma questo confine dove va messo, Borghezio? Ancora non l'ho capito, cioè il centro-sud. Questo confine va messo dove si può, oggi come oggi la situazione politica ci consente di metterlo nella linea gotica, per noi diciamo abbiamo sfondato fino adesso fino in Emilia e Romagna. Beh, la linea gotica è un po' più in basso. Ma però. Quando ci sarà? Io sono convinto che ci sarà quanto prima. Cioè la Toscana lei la vorrebbe annettere al nord, insomma. La Toscana secondo me fa parte della Grande Padania. Della Grande Padania, non c'è dubbio. Per mille motivi. E l'Umbria? L'Umbria è sicuramente assimilabile, le Marche senza dubbio. E Lazio? Il Lazio, una parte del Lazio io sarei molto propenso. Il Vaticano lo lasciamo lì com'è? Oppure... Il Vaticano deve rimanere ovviamente uno stato autonomo certo. È ovvio. Ma all'interno del centro-sud del Regno delle Due Sicilie oppure all'interno del nord? Il Vaticano è indipendente, ovviamente. Sai, quello che c'è intorno è importante. Intorno al Vaticano che c'è? La Padania o il Regno delle Due Sicilie? No, c'è... Beh, bisognerà vedere come loro decidono il centro-sud e come decide di organizzarsi. Per me può continuare a chiamarsi Italia, avere il suo Presidente della Repubblica. Ah, Italia al sud e al nord Padania, dice lei. Certo, ma noi siamo Padania. Problema c'è? La Lettonia, l'Estonia e la Lituania 10 anni fa erano prigioniere del carcere sovietico. Adesso sono repubbliche indipendenti. E lei si sente prigioniere del carcere d'Italia? Noi siamo prigionieri del carcere fiscale, Italia del carcere burocratico, Italia del carcere fancazzista, Italia del carcere poco serio, Italia di un paese che non riesce a farsi rispettare nemmeno dal Brasile. Lei comprende il concetto, no? Nemmeno dal Brasile. Dunque Berlusconi non ha saputo difendere gli interessi italiani. Non è Berlusconi, è l'Italia, perché il problema di Berlusconi è che l'Italia non conta un cazzo. Questa è l'espressione, io sono un po' terra-terra, non sono un fine politico come quelli che vengono le vostre trasmissioni. Io dico le cose come parla il popolo. E dunque l'Italia, che dice? Dalla mia visuale europea, già lo sapevo prima, ne sono convinto, l'Italia non conta un cazzo e questa questione lo dimostra in maniera inconfutabile. L'Italia non conta un cazzo, meglio la Padania. Come, scusi, non ho capito bene esattamente questo giudizio sull'Italia, perché è stupendo. No, l'Italia, detto con il massimo rispetto per tutte le autorità, le penali, eccetera, eccetera, religiose, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghetto dalla sua visione europea. Aspetta, Parenzo, fammelo ripetere, non contiamo, scusi Borghetto, provo a ripetere. Un cazzo, cioè meno di niente, detto così come parlano i politici più corretti, più educati di me. Io sono un operaio della politica, capisce? Ho un vocabolario limitato. E dunque, parlo come parla la gente che lavora, che la gente umile. Lei in un minuto ha sintetizzato un po' quello che. Io credo di aver espresso la mia opinione con onestà. Penso che non ci siano dubbi su quello che io penso. E devo dire che mi sono bastati 7 mesi in un ministero. Io sono andato così anche con una certa percentuale di federalismo nelle vene, eccetera. Sì. Dopo 7 mesi in un ministero, nel primo governo Berlusconi, sono tornato ferocemente separatista. Questo lo consiglierei a chiunque, questa esperienza. 7 mesi in un ministero romano e poi si torna. Io lo dico sempre, noi come movimento politico, come partito politico, buttiamo via un sacco di soldi nella propaganda, nelle spese. Basterebbe organizzare dei viaggi organizzati pullman e fargli fare il giro dei ministeri. I padani partono, tenuamente. Quanti pullman farebbe lei al giorno? Direi migliaia. Sarebbero i soldi meglio spesi nella propaganda, tornerebbero tutti secessionisti come me. Senta, però la frase più eccezionale è quella sull'Italia che non conta, non lo posso dire, lo dica lei Borghetti. Perché... No, l'Italia ufficiale non conta un cazzo, poi conta l'Italia del Made in Italy, conta... L'Italia dei per cui alla fine Battisti non ce lo ridanno per questo, perché l'Italia non conta. Ma mi pare la prova provata. Cioè, ma la Padania si farebbe valere Brasile, di più. Il Brasile di Lula e chi farebbe la Padania? Cioè la Padania cosa farebbe per farsi ridare Battisti? Il Brasile con 25 milioni di italiani d'origine se ne fotte dell'Italia, capisce? Questo è il concetto. Appunto. Questa è la situazione. Basterebbe questo per far aderire tutti al secessionismo di Borghetto. Non c'è dubbio. Senta un attimo. Comunque le adesioni sono aperte, basta scrivere, l'adesione è gratuita. Sì, senta un attimo, un'ultima cosa, ma se esistesse la Padania, cosa farebbe? La Padania esiste. Vabbè, ma com'è stato? Manca, scusi, abbia pazienza, lei prenda la navicella del Parlamento Europeo. Ma lo so, lo sai, ogni volta lei ci ripete. È indicato come capo del governo provvisorio. Ma l'ha fatto, l'ha fatto scrivere lei, Borghezio, abbia pazienza. Deve mettere Franco Bolli, non lo so. Eh sì, insomma, per creare uno Stato ci vuole una cancelleria come quella del Divino Telmo. Beh, ci arriveremo. Per adesso non siamo ancora riconosciuti universalmente, però... Già c'è un primo passo presso l'istituzione europea. Senta, Borghezio, un'ultima cosa, ma se esistesse la Padania, diciamo, come è stato... E poi le dico una cosa che non sa nessuno, che non sa nessuno. Sì. Io credo, Parenzo mi conosce da più tempo di lei, cioè, ci sono molti paesi importanti che erano pronti a riconoscere la Padania. Cioè? A una questo ve lo lascio così, poi li discutete, al prossimo invito sarò più esplicito. Intanto è aperto ai collaboratori, so che avete un mare di ascoltatori, dappertutto sento gente che mi dice ma perché non va, perché, come perché non va, è sempre qui a questa bella trasmissione. So che ci sono molti padani, non solo molti padani, molti padani, e questo incuriosirà molta gente. C'erano dei paesi importanti pronti al momento del Po a riconoscere la Padania indipendente. Questo io lo dico da persona seria, da padano convinto, modestamente da presidente del governo provvisorio della Padania, e nessuno è in grado di smentirmi. Va bene, nessuno Borghezio. È in grado di smentirmi. Viva la Padania, l'Italia non conta un cazzo. Grazie, grazie Borghezio, grazie. 20 43 28 finale, tiro tecnico meraviglioso. 800 24 00 24 tu lo sai che è tutto finito, vero? Tutto finito. No, volevo... volevi aggiungere questa piccola pastiglia. Siamo solo il 3 di gennaio del 2011, sai che è tutto completamente finito, no? Tommaso da Firenze, buonasera. Buonasera, salve, io ero per, ho chiamato per la questione Battisti, in particolare in riferimento all'intervista di D'Elia su Riformista. Sì. Intanto bravo alla base che ha fatto l'intervista, il giornalista del Riformista. Molto bravo, sì, nostro amico Tommaso Labate, bravissimo giornalista riformista, bisogna riconoscerlo, esatto. Sempre. Parlo da radicale, insomma da uno che ha fatto anche politica con i radicali, che è rimasto piuttosto deluso da questa uscita di D'Elia, che pure stimo, perché seguendo la logica radicale di portare al centro del dibattito questioni marginali ma che sono ritenute fondamentali, come può essere quella delle carceri, D'Elia ha voluto prescindere totalmente dal merito della vicenda Battisti e ha fatto sì che una questione importante che ha un senso di essere in sé, perché è una questione che c'è ed è reale, quella del sovraffollamento delle carceri italiane, l'ha resa un argomento pretestuoso, nuocendo quindi alla sua stessa causa. Io credo che l'errore in fondo di D'Elia, che ha detto che Battisti non torna ed è giusto che non torni perché le carceri italiane sono un sistema criminale, ecco, io credo che lui abbia fallito proprio nell'obiettivo giusto che si era prefisso. Giusto, no Tommaso, è un paradosso, no non è un paradosso, ha ragione l'ascoltatore ed è quello che dicevo io prima, l'ha detto molto meglio Tommaso da Firenze. No, ma cioè, tutti noi siamo d'accordo che le carceri italiane, a parte che le carceri italiane non sono nella condizione che descrive D'Elia, i crimini, le cose, cioè, sono in una situazione grave per vari motivi, ma qualcuno... Ma guarda che i suicidi ci sono anche in altri paesi, i suicidi in carcere non sono solamente per le situazioni carcerarie, perché il carcere è una cosa complicata. Da noi. Ma no, non è vero, in Francia mi segnalano che in media ci sono più suicidi rispetto all'Italia, ma non è questo il punto. Tommaso ha ragione, cioè D'Elia, che è una bravissima persona che io conosco, con cui ho parlato spesso nel passato di varie cose, di vari argomenti, sbaglia a mettere insieme la questione Battisti con la questione carceraria. Sono due cose. Ma io guarda che non ho criticato questo, ho criticato il giornale che per attaccare D'Elia dice un ex terrorista non ci può fare lezioni sulle carceri. Ma quello sono una cosa di cattivo gusto, di poco stile. No, non dice non può fare lezioni sulle carceri, dice un'altra cosa. No, non dice il giornale. Ma comunque tu non ti puoi attaccare al titolo del giornale, perché se vogliamo prendere i titoli dei giornali, allora possiamo fare una cernita ogni giorno sui titoli di tutti i giornali italiani, no? No, non è il suo titolo, è una cosa in stile legittima, per carità, è un giornale d'opinione, figuriamoci. Il caso Battisti, le lezioni dei due ex terroristi, come se un uomo come D'Elia, che da 20 anni si occupa di questo, non potesse parlare di carceri. Ma certo che può parlare di carceri, allora, può parlare di carceri. Battisti ha fatto una campagna pretestuosa, come spesso, come sa fare, perché è un giornalista bravo, d'opinione, per carità, che non, di cui non condivido nulla di quello che scrive e dice, ma lotterò affinché lo possa continuare a fare, a dire. ma è pretestuosa, è voluta. Se tu impagini, fai un'intera pagina sul caso Battisti mettendo le lezioni dei due ex terroristi. No, dice, il titolo è questo: no. Niente catte tra i cattivi maestri che hanno ucciso. De Lì e Persichetti accusano l'Italia e il sistema carcerario. Finire in cella significa morire. No, ma voglio dire, la polemica ma ci sta. Al di là dei termini, la polemica ci sta tutta. In un titolo, no, perché in un titolo cancella 20 anni di storia di Francesca Mambro e Sergio De Lia, 20 anni di battaglie di Francesca Mambro e Sergio De Lia sui temi del carcere, è proprio una scoreggia nello spazio, una roba pazzesca. Non è così. Ma comunque sì, traffico, quando uno dice lo Stato italiano è un delinquente abituale, che è una terminologia radicale naturalmente che utilizza Sergio De Lia, secondo me commette un errore, come giustamente sottolineava Tommaso da Firenze, con cui riprendiamo a parlare fra qualche istante. Eccoci, Antonio da Pavia, 800 24 00 24, volata finale con gli ascoltatori. Antonio, Buonasera dottor Cruciani. Niente, io sento naturalmente molta indignazione per il caso Battisti, per la mancata estradizione. Anch'io mi indigno moderatamente per questa cosa, nel senso che forse se Battisti deve tornare in Italia, poi magari essere messo a lavorare qualche società mista, pubblico-privato, rifugio in peccatorum, di svariati terroristi di matrice e colore diverso, forse è meglio che se lo tengano lì in Brasile. Non è una grande argomentazione questa, Antonio. No, non sarà una grande argomentazione. Cioè, però il fatto che siccome noi abbiamo una legislazione premiale, eccetera, eccetera, una legislazione che consente dopo un tot di anni di usufruire di certi permessi, allora è meglio che resti in Brasile. Insomma, a parte che resterà in Brasile, ma probabilmente libero, insomma. La mia era una provocazione, però lei capisce che qui in Italia alcuni ex brigatisti con appunto questo regime premiale che lei diceva vanno addirittura a fare conferenze colte nelle università. Io credo che ho capito, ma questo cosa significa? Significa che dobbiamo lasciare Battisti in Brasile? Cosa c'entra? Per quanto mi riguarda è inaccettabile che certa gente che si è macchiata di crimini contro la collettività, perché di questo si tratta, vada poi a voler insegnare, a voler parlare. Ma questo si può discutere, anch'io potrei essere d'accordo. Mi però fa veramente schifo. Antonio, ma fa schifo anche a me. Detto questo, qual è il legame con la vicenda Battisti? Allora è meglio che resti là perché c'è il rischio che possa insegnare in un'università italiana o possa essere intervistato, cose di questo tipo? Guardi, le dico, per l'irritazione che questo provoca e che provocherebbe anche, penso, nei parenti delle vittime, è provocatoria la mia proposta, è provocatoria naturalmente, però credo forse sia meglio, è un meglio amaro. Intanto i parenti delle vittime non sono d'accordo con lei, ma invece vogliono Battisti in Italia, anche se poi, come sappiamo, io sono uno di quelli... Se scontasse la sua pena, sì. Sì, ma Antonio, ma guardi... poi fino in fondo... Secondo le regole dell'ordinamento italiano. Grazie, Antonio. Giancarlo da Milano, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Io ho solo un dubbio. Sì. Non è che il Brasile abbia negato l'estradizione semplicemente perché ritiene il modo di condurre certi processi in Italia non conformi alla loro idea di giustizia. Vale a dire che processi formati esclusivamente sulla testimonianza dei cosiddetti pentiti per loro non siano validi più di tanto. Sì, Giancarlo, a parte che ci sono delle norme internazionali da questo punto di vista, certamente l'ordinamento italiano dell'epoca non è stato mai considerato un ordinamento italiano contro i diritti umani o contro i diritti dell'imputato. Nella maniera più assoluta non c'è alcun tribunale mondiale, europeo o mondiale, che abbia giudicato il nostro ordinamento dell'epoca, le leggi emergenziali, come qualcosa di abnorme, come qualcosa che conculcava i diritti umani o cose di questo tipo. Nella maniera più assoluta. In Italia non ci sono mai stati tribunali speciali. Insieme ai cosiddetti pentiti ci devono essere anche prove o comunque ci devono essere dei riscontri alle parole dei pentiti, che poi si sono commessi degli errori, si sono potuti commettere degli errori, su questo non c'è dubbio. Di cosa parliamo? Ma non riesco a comprendere l'opposizione del Brasile su questo tema. Sono opposizioni ideologiche, posizioni politiche e posizioni... Ma devono essere anche spiegate. Ma sì, ma poi altrimenti è chiaro che certo, ma poi posso avere ragione Borghezio. Cosa? Che noi alla fine non contiamo potrebbe nulla. Potrebbe spingere, no, esatto. Quello può darsi che sicuramente il peso internazionale dell'Italia abbia avuto un ruolo in questa vicenda. Io, per quello che posso conoscere questa vicenda, la mia spiegazione è che un ruolo, se l'ha avuto la Francia, e Lula ha voluto indirettamente fare un favore alla coppia presidenziale Sarkozy-Bruni, e poi c'è la questione interna brasiliana degli equilibri interni che è da considerare. Marco da Piacenza, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Due cose molto rapidamente. Una sulla Lega. Innanzitutto io non sono assolutamente un elettore leghista. Condivido ben poco di quello che la Lega propone politicamente, però una cosa gli va riconosciuta: forse si pongono poche domande, ma sicuramente le risposte le danno, sbagliate dal mio punto di vista, e le danno. Quindi un minimo di coerenza a questo partito bisogna riconoscerlo nell'arco parlamentare italiano. Vabbè, questo è un discorso che abbiamo fatto più volte sulla posizione, sì, della Lega, sulla chiarezza della Lega. Dunque, che spesso e volentieri le persone più intelligenti sono quelle che hanno più domande che risposte. Mi piacerebbe che anche altri partiti per esempio come il PD, invece di ad ogni domanda evitassero di dare 6 risposte e ne dessero una sola, forse avrebbero qualche elettore in più. Punto. E un piccolo richiamo sul Brasile e sulla questione Battisti. Io mi sto chiedendo, ma nel momento in cui il Brasile ha firmato gli accordi di estradizione con l'Italia, la legge italiana, i processi italiani erano migliori di quelli che sono adesso o erano uguali o peggiori? Perché se uno firma un accordo, evidentemente quell'accordo... Di che accordo sta parlando? Di quello bilaterale sulle strade? Esatto. Sì, sì, ma infatti, voglio dire, poi sulle questioni giuridiche possiamo entrare... Non riesco a capire le motivazioni. Politiche, c'è la politica, la politica, sì, motivazioni solo politiche, non c'è nulla che riguarda il diritto, niente. Poi se uno vuole pensare che il Brasile abbia fatto questa indagine sugli anni 70 in Italia, può anche pensarlo, ma insomma non è così. No, infatti sono assolutamente d'accordo. La cosa che mi dispiace è che comunque una volta che la legge italiana ha stabilito che una persona è incriminata, è stata giudicata colpevole di 2 omicidi, io ritengo che uno Stato con il quale c'è un accordo di estradizione non abbia molte chance, per cui... E infatti si è dovuti arrivare all'ultimo giorno utile per Lula, nonostante il giudizio contrario, la sentenza del Tribunale Supremo brasiliano, per fregare tutti, perché poi Lula ha compiuto quello che si può dire un delitto perfetto. Sì, cioè, cosa ha fatto? Anche perché non viene condannato da nessuno, quindi non gli costa. La responsabilità non ce l'ha più, la responsabilità non la lascia nemmeno al suo successore. Arrivederci, grazie. La ringrazio. Giacomo, provincia di Bari, velocemente. Caro dottore, io mi riferisco praticamente a quello che ha detto il signor Borghezio. Io volevo sapere, è ancora onorevole questo signore? Beh, è europarlamentare, sì, certo che è onorevole. E i soldi che prende, da dove li va a prendere lui? Che noia. Insomma, ma è possibile che dobbiamo avere questi elementi nel Parlamento italiano che vogliono la secessione? Ma stiamo a scherzare veramente. Ma questo signore. Però qui... Giacomo, lei sta parlando con la radio accesa, la voce la sentiamo distante, cerchi di riconnettersi un po' meglio. Allora, un attimo che spengo. Un attimo, intanto andiamo a Domenico da Milano. L'ha spenta la radio? Ecco, l'ho spenta la radio. Allora mi dica, lei non sopporta Borghezio che parla di secessione? Assolutamente. Vabbè, ho capito. Che dobbiamo fare? Non esiste un discorso del genere. Ma neanche accennarlo. Perché questo signore vive con i soldi nostri, con i soldi degli italiani. Vive europarlamentare, vive con lo stipendio da europarlamentare, indirettamente anche con i soldi nostri. Vabbè. Ho capito, ma le idee. Scusi un attimo, io adesso non voglio spezzare la lancia fuori di Borghezio, che si difende da solo benissimo. Io non sono d'accordo con quello che dice Borghezio, però ognuno può dire quello che vuole. L'idea della secessione di per sé non è nei fatti, non è reale, io la combatto. Ma l'idea della secessione è un'idea che si può, naturalmente la secessione non armata è evidente, è un'idea che si può anche sostenere, non è così folle, diciamo, no? In generale parlo, cioè non... Beh, è un, diciamo, in una fase un po' diversa. No, ma sto dicendo in generale, non con riferimento alla Padania, alla linea gotica, tutte queste cose qua su cui scherziamo con Borghezio. Noi scherziamo almeno, Borghezio non so. Lui è serio. Io credo che lui sia serio. Grazie, grazie signor Giacomo dalla provincia di Bari. Dove andiamo? Domenico da Milano per chiudere, poi c'è anche Mario da Brescia, ma siamo ormai agli sgoccioli. Domenico. Buonasera. Dica, Domenico, in un flash, in un flash. Più che altro volevo porre un quesito, quesito se non so se lei è in grado di rispondere, ma quando Battisti si apprestava a lasciare la Francia, che aveva come meta il Brasile, come nido di accoglienza il Brasile, no? Dove pare che abbia... D'accordo, un... allora la domanda qual è? La domanda è, ma i nostri servizi segreti... ma i nostri segreti che devono fare? Entrare in Francia. Dove erano i servizi segreti francesi, questo, mi potrà dire? Dove erano i servizi segreti francesi? Questa è la vera domanda. Ma di fatto i servizi segreti italiani potevano accordarsi con quelli francesi per un'operazione chiaramente di... A domani, 18:30. Au revoir. L'ambulanza va. Viva la Padania, l'Italia non conta un cazzo. Finalmente sa che mostro sei. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. La Zanzara.